Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. La Locanda della Tormenta presenta Conan, gli accoliti del cerchio nero. Buon ascolto. Uno. Il re del Vendia stava morendo. Per tutta la notte afosa e soffocante suonarono i gong e rimbombarono le conche absidali del tempio. Il loro clamore non era che una debole eco nella stanza della cupola d'oro in cui Bunda Chand lottava contro la morte sui cuscini di velluto. La sua pelle scura era imperlata di sudore. Le sue dita torcevano la stoffa ricamata d'oro della veste. Era giovane. Nessuna lancia l'aveva sfiorato, nessun veleno era scivolato nel suo vino. Eppure le vene pulsavano come corde azzurre in prossimità delle tempie, e gli occhi erano dilatati per l'avvicinarsi della morte. Schiave tremanti erano inginocchiate ai piedi del trono, e china su di lui, a guardarlo con intensità appassionata, c'era sua sorella, la Devi Yasmina. Era con lei il Wasam, un eletto cresciuto e invecchiato alla corte del re. La donna sollevava la testa in un gesto d'ira e di disperazione, mentre il rombo dei tamburi lontani le arrivava alle orecchie. I sacerdoti e il loro fracasso! Non ne sanno più dei cerusici, che a nulla valgono! Lui muore e nessuno sa dire perché! Adesso sta morendo e io me ne resto qui, impotente! Io che appiccherei il fuoco all'intera città e che verserei il sangue di migliaia di uomini pur di salvarlo! «Non c'è neanche un uomo, ad Oyudia, che non sarebbe pronto a morire al suo posto, Devi, se potesse. Questo veleno...» «Ti dico che non è veleno! Da quando è nato è stato sorvegliato così strettamente che neppure gli avvelenatori più astuti di tutto l'Oriente avrebbero potuto raggiungerlo. I cinque teschi che biancheggiano sulla Torre dei Falchi possono testimoniare quanti tentativi sono stati fatti». E quanti hanno fallito! Come sai bene, ci sono 10 uomini e 10 donne il cui unico compito è di assaggiare il suo cibo e il suo vino, e 50 guerrieri armati sorvegliano la sua stanza esattamente come adesso! No, non è veleno! È magia! Magia nera! Magia demoniaca! Si interruppe, accorgendosi che il re cercava di dire qualcosa. Le labbra livide non si muovevano e nei suoi occhi vitrei non brillava alcun barlume di coscienza. Ma la sua voce risuonò arcanamente, indistinta e lontana, come se la chiamasse da insondabili abissi tempestati dai venti. «Yasmina! Yasmina, sorella mia! Dove sei? Non riesco a trovarti! È tutto buio e si ode solo l'ululare dei venti!» «Fratello!» gridò Yasmina, afferrandogli la mano inerte in una stretta convulsa. «Sono qui, non mi riconosci?» Le morì la voce in gola nel vedere il volto completamente inespressivo del fratello. Dalla bocca di lui uscì un gemito basso e confuso. Le schiave inginocchiate ai piedi del trono tremarono di paura e Yasmina si batté il petto per l'angoscia. In un'altra parte della città, un uomo era affacciato a un balcone con l'inferriata che dava su una lunga strada, dove stava passando un corteo di fiaccole fiammeggianti e fumanti, le quali rivelavano facce scure e scintillare d'occhi. Dalla folla saliva un coro lamentoso. L'uomo scrollò le larghe spalle e tornò nella camera arabescata. Era alto, ben piantato e sontuosamente abbigliato. «Il re non è ancora morto e i canti funebri già risuonano», disse a un secondo uomo che era seduto a gambe incrociate su un tappeto nell'angolo. Costui indossava una veste di pelo di cammello e un paio di sandali e portava un turbante verde sul capo. Aveva un'espressione tranquilla e uno sguardo distaccato. «Il popolo lo sa che non vedrà una nuova alba», gli rispose. L'altro gli lanciò un lungo sguardo penetrante. «Quello che non capisco è perché devo aspettare tanto prima che i tuoi padroni colpiscano. Se sono riusciti ad assassinare il re adesso, perché non l'hanno fatto mesi fa?» «Anche le arti che tu chiami stregoneria sono governate dalle leggi cosmiche. Sono le stelle a dirigere queste azioni, come molte altre cose. Neppure i miei padroni possono cambiare le stelle. Non potevano fare questa necromanzia finché i cieli non si fossero trovati nella posizione giusta. L'inclinazione della luna indica brutti presagi per il re del Vendia. Le stelle sono in tumulto e il serpente è nella casa dell'elefante. Durante questa sovrapposizione, i custodi invisibili dello spirito di Bunda Chand si sono allontanati da lui. Si è aperta una strada nei regni oscuri e una volta stabilito un punto di contatto, intervengono le grandi potenze lungo questa strada». «Un punto di contatto? Intendi dire la ciocca di capelli di Bunda Chand?» «Esatto. Tutte le parti del nostro corpo, anche quando vengono separate da questo, continuano a farne parte, avvinte da legami intangibili. I sacerdoti di Asura conoscono intuitivamente questa verità, e così ogni frammento di unghia, ogni capello, ogni altra minima parte della persona dei membri della famiglia reale viene accuratamente ridotto in cenere e come cenere nascosto. Ma alle imploranti suppliche della principessa di Kosala, innamorata senza speranza di lui, Bunda Chand le ha dato una ciocca dei suoi lunghi capelli neri per ricordo. Quando i miei padroni hanno deciso il suo fato, la ciocca che la principessa custodiva in uno scrigno di pietre preziose le è stata sottratta da sotto il cuscino mentre dormiva e al suo posto è stato messo un altro scrigno, talmente identico al primo che lei non si è mai accorta della differenza. Poi la ciocca autentica ha viaggiato con una carovana di cammelli per la lunga, lunga strada per Peshkauru e da lì ha attraversato il valico di Zanzibar, finché è giunto nelle mani di coloro ai quali era destinata». «Una semplice ciocca di capelli», mormorò il nobile. «In virtù del quale uno spirito viene staccato dal corpo ed è costretto ad attraversare abissi di spazio echeggiante», concluse l'uomo sul tappetino. Il nobile lo osservò incuriosito. «Non so se sei un uomo o un demone, Kemsa. Pochi di noi sono quello che sembrano. Anche io, che i Xatria conoscono come Kerim Shah, principe dell'Iranistan, porto una maschera come gran parte degli uomini. Tutti sono dei traditori, per un verso o per l'altro, e metà di loro non sa chi sta servendo. Su questo punto almeno io non ho dubbi, perché servo re Yezidjerd del Turan». «E io i veggenti neri di Imsha. E i miei padroni sono più potenti del tuo, perché sono riusciti con le loro arti dove Yezidjerd non poteva neppure con centinaia di spade». Di fuori, il lamento della moltitudine saliva fino alle stelle che punteggiavano la notte afosa di Vendia, e le conche mugghiavano come buoi sofferenti. Nei giardini del palazzo, le fiaccole risplendevano sugli elmi lucidi, sulle spade ricurve e sui corsaletti d'oro battuto. Tutti i nobili guerrieri di Ayodhya si erano radunati all'interno del grande palazzo, oppure intorno, e ogni cancello e ogni porta erano di guardia 50 arcieri con gli archi in pugno. Ma la morte arrivava a grandi passi nel palazzo reale e nessuno poteva fermare la sua lugubre avanzata. Sul trono, sotto la cupola d'oro, il re gemette nuovamente in preda al parossismo. Di nuovo risuonò la voce debole e lontana, e di nuovo la Devi si chinò su di lui, tremando di una paura più oscura del terrore della morte. «Yasmina!» Di nuovo quel grido lontano e prolungato proveniente da profondità incommensurabili. Aiutami! Mi trovo lontano dalla mia dimora mortale! I maghi hanno trascinato il mio spirito nelle tenebre ululanti! Vogliono recidere la corda d'argento che mi lega al mio corpo morente! Mi stanno tutti intorno, hanno artigli al posto delle unghie e i loro occhi fiammeggiano come torce nelle tenebre. Ahimè, salvami sorella mia, le loro dita bruciano come fuoco. Vorrebbero assassinare il mio corpo e maledire il mio spirito. Che cosa vedo là davanti? Aiuto! Terrorizzata da quel grido disperato, Yasmina urlò senza più controllo e, abbandonandosi all'angoscia, gli si buttò sopra con tutto il corpo. Il fratello era scosso da convulsioni terribili. Dalle labbra contorte schiumava bava e le sue dita le afferravano le spalle con tanta forza da lasciarle il segno. Ma dagli occhi improvvisamente svanì quello sguardo vitreo come fumo esalato da un fuoco e allora guardò la sorella e la riconobbe. «Fratello! Fratello!» «Svelta!» le disse ansimando, ma con la mente lucida. «Adesso so che cosa mi sta conducendo alla pira! Ho compiuto un viaggio lontano e ora capisco! Mi hanno fatto un sortilegio i maghi degli Himeli! Mi hanno strappato lo spirito dal corpo e l'hanno portato lontano, in una sala di pietra! E lì hanno cercato di recidere la corda d'argento della vita e di rinchiudere il mio spirito nel corpo di una ripugnante creatura della notte che hanno chiamato con la stregoneria dell'inferno. Ah, adesso mi tirano! Il tuo grido e la stretta delle tue dita mi hanno riportato indietro, ma me ne sto andando in fretta. Il mio spirito si aggrappa al corpo, ma la sua presa si indebolisce. Svelta, sorella, uccidimi prima che possano imprigionare il mio spirito per sempre!» «Non posso!» gemette lei, percuotendosi il seno nudo. «Svelta, te lo ordino!» Si udì ancora una volta l'antico tono imperioso del re nella voce del morente. «Non mi hai mai disobbedito! Obbedisci al mio ultimo ordine! Manda la mia anima pura ad Asura! In fretta, se non vuoi dannarmi a trascorrere l'eternità da osceno demone delle tenebre! Colpisci, te lo ordino! Colpisci!» Singhiozzando disperatamente, Yasmina estrasse il pugnale tempestato di pietre preziose che portava alla cintura e lo piantò fino all'elsa nel petto del fratello. Questo si irrigidì, poi si distese con un ultimo sorriso soddisfatto sulle labbra morenti. Yasmina si buttò a faccia in giù sul pavimento tempestando di pugni le canne di giunco. Fuori i gong e le conche rintoccavano e strepitavano, mentre i sacerdoti si sacrificavano la pelle con i coltelli di rame. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Due. Chundarshan, governatore di Peshkauri, posò la penna d'oro e rilesse attentamente quello che aveva scritto sulla pergamena che recava il suo sigillo ufficiale. Governava Peshkauri da tanto tempo solo perché soppesava ogni parola, detta o scritta che fosse. Il pericolo porta cautela e soltanto un uomo astuto riusciva a vivere a lungo in quella terra selvaggia dove le roventi pianure del Vendia si incontravano con le rocce degli Imeliani. Con una cavalcata di un'ora a occidente o settentrione si attraversava la frontiera e si ritrovava sulle montagne, dove gli uomini vivevano secondo la legge del coltello. Il governatore era solo nella stanza, seduto al suo tavolino d'ebano preziosamente intarsiato. Dall'ampia finestra, lasciata aperta per un po' di fresco, poteva vedere un quadrato di cielo notturno dei monti Himeliani, punteggiato di grosse stelle bianche. Un parapetto adiacente era una linea confusa e più in là le feritoie e le strombature apparivano appena alla luce fioca delle stelle. La fortezza del governatore era solida e situata oltre le mura della città che difendeva. La brezza, che gonfiava gli arazzi alle pareti, portava anche deboli rumori provenienti dalle strade di Peshkauri. Una canzone triste, il pizzichio di un liuto. Il governatore rilesse lentamente quello che aveva scritto, muovendo le labbra e schermandosi gli occhi con la mano dalla luce della lampada di bronzo. Distrattatamente, mentre leggeva, udì un rumore di zoccoli oltre il barbacane e il secco altolà delle sentinelle. Non vi fece caso, preso com'era dalla sua lettera. Era diretta al Wasan del Vendia, alla corte reale di Ayodhya, e dopo i saluti preliminari diceva: «Sappia la vostra eccellenza che ho eseguito fedelmente le sue istruzioni. I 7 capi tribù sono ben sorvegliati nella prigione e ho fatto sapere più volte sulle montagne che deve venire il loro capo in persona a trattare la loro liberazione. Ma costui non ha fatto ancora alcuna mossa, tranne far sapere che se i suoi uomini non saranno liberati, incendierà Peshkauri e si farà una sella con la mia pelle, con rispetto parlando a vostra eccellenza. Ed è capacissimo di farlo, per cui ho triplicato il numero di lancieri di guardia. L'uomo non è nativo del Gulistan. Non so prevedere con esattezza la sua prossima mossa, ma essendo desideroso della Devi...» In un attimo scese dalla sua sedia d'avorio e si girò verso la porta ad arco. Afferrò velocemente la spada ricurva riposta nel fodero ricamato sul tavolo e attese gli eventi. Era stata una donna a entrare senza farsi annunciare. Una donna cui veli sottili non riuscivano a nascondere gli abiti sontuosi che portava sotto, così come non riuscivano a nascondere la bellezza e la sinuosità del suo corpo alto e snello. Sul seno le cadeva un velo sottile, sostenuto da un'acconciatura realizzata con una treccia bionda attorta 3 volte e sovrastata da una mezzaluna d'oro. I suoi occhi scuri guardarono da sopra il velo l'esterrefatto governatore. Quindi, con un gesto imperioso della mano, la donna si scoprì il volto. «Devi!» Il governatore cadde in ginocchio davanti a lei, non riuscendo nel suo atto di obbedienza per via dello sbalordimento e del disorientamento di cui era preda. Con un cenno, lei gli ordinò di alzarsi e l'uomo si affrettò ad accompagnarla alla sua sedia d'avorio, continuando a restare piegato in due in segno di rispetto. Le prime parole che le disse, tuttavia, furono di rimprovero. «Vostra maestà, non è stato affatto saggio! La frontiera è in fermento! Subiamo scorribande continue dalle montagne! Siete venuta almeno qui con un grosso seguito?» «Una scorta numerosa mi ha accompagnata fino a Peshkauri. Lì ho fatto sistemare la mia gente. Poi sono venuta al forte con la mia serva, Gitara.» Chundar Shan grugnì orripilato. «Devi! Voi non vi rendete conto del pericolo! A un'ora di cavallo da qui le montagne brulicano di barbari che rubano e uccidono per mestiere! Tra il forte e la città sono state rapite molte donne e gli uomini sono stati accoltellati! Peshkauri non è come le vostre province meridionali!» «Però sono qui e illesa!» lo interruppe lei leggermente spazientita. «Ho mostrato il mio anello alla sentinella al cancello e alla guardia davanti alla tua porta. E mi hanno fatta entrare senza conoscermi e senza annunciarmi, pensando che fossi un corriere segreto giunto da Ayodhya. Non perdiamo altro tempo. Non hai ricevuto nessun messaggio dal capo dei barbari?» «Nessuno, a parte insulti e minacce, Devi. È astuto e sospettoso. Crede che sia una trappola e forse non ha tutti i torti. Gli Ksatriya non sempre hanno mantenuto le promesse fatte alle tribù delle montagne.» «Deve scendere a patti!» lo interruppe Yasmina, serrando i pugni fino a far diventare le nocche bianche. «Non capisco! Quando ho catturato questi 7 nomadi, l'ho riferito al Wasan, come era mio dovere. Poi, prima che li potessi impiccare, mi è arrivato l'ordine di tenerli in prigione e di mettermi in contatto con il loro capo. Io l'ho fatto! Ma l'uomo, come ho detto, non vuole uscire allo scoperto. Questi uomini appartengono alla tribù degli Afghuli, ma lui è uno straniero dell'Ovest e si chiama Conan. Ho minacciato di impiccarli domani all'alba se non si farà vedere.» «Bene, hai agito bene.» Si interruppe, tossì e il governatore chinò la testa in segno di rispetto per il defunto sovrano. «E adesso ti dirò perché ho dato questi ordini. Mio fratello... Il re di Vendia è stato ucciso con la magia. Ho giurato sulla mia vita di distruggere i suoi assassini. Mentre moriva, mi ha lasciato un indizio e io l'ho seguito. Ho letto il libro di Skelos e ho parlato con gli eremiti senza nome delle grotte di Gelai. Ho appreso così come e da chi è stato ucciso. I suoi nemici erano i veggenti neri del monte Yimsha. Per Asura! Sussurrò Chundershan impallidendo. Gli occhi di lei lo trafissero come una spada. Hai paura di loro? E chi non ne ha, vostra maestà? Sono diavoli neri che vivono sulle montagne deserte al di là dello Zanzibar. Ma i saggi dicono che di rado interferiscono con la vita dei mortali. Perché abbiano ucciso mio fratello, non lo so. Ma ho giurato sull'altare di Asura di distruggerli. E per farlo mi serve l'aiuto di un uomo oltre la frontiera. Un esercito shkariano senza il suo aiuto non arriverebbe mai allo Yimsha. Ahimè, voi dite il vero. Ci sarebbe da combattere ad ogni metro di strada contro i montanari che ti lanciano massi dall'alto e ti saltano addosso con i loro lunghi coltelli in ogni valle. Una volta i turaniani riuscirono a superare gli himeliani, ma quanti di loro tornarono a Kurusun? Pochi tra coloro che sfuggirono alle spade degli Xatria quando il re vostro fratello sconfisse il nemico sul fiume Yumda videro nuovamente Sekunderam. È proprio per questo che devo avere qualcuno oltre la frontiera. Uomini che conoscano la strada per il monte Yimsha. Ma le tribù temono i veggenti neri e stanno alla larga da quella montagna maledetta. Anche il loro capo, Conan, li teme? Beh, quanto a questo, dubito che esista qualcosa che quel diavolo tema. Così mi è stato detto. Perciò è lui l'uomo che mi serve. La loro libertà per la testa dei veggenti neri. La voce le tremò di odio nel pronunciare le ultime parole e allora serrò i pugni contro i fianchi. Sembrava l'incarnazione stessa della fierezza, mentre stava lì a testa alta e col petto gonfio. Il governatore si inginocchiò nuovamente, perché sapeva, saggiamente, che una donna in quello stato è pericolosa come un cobra per chiunque le stia intorno. «Sarà fatto come voi desiderate, vostra maestà!» Quindi, vedendo che tornava calma, si rialzò in piedi e si azzardò a darle un avvertimento. «Non posso prevedere quale sarà la mossa del loro capo, di questo Conan. Gli uomini delle tribù sono sempre bellicosi e ho motivo di credere che gli emissari dei turaniani lo stiano incitando a fare scorribande nei nostri confini. Come vostra maestà saprà, i turaniani si sono stabiliti a Sekunderam e anche in altre città settentrionali, ma non hanno ancora conquistato le tribù montanare. Re Yezdigerd ha sempre mirato con cupidigia ai territori meridionali e ora sta cercando di ottenere con il tradimento quello che non è riuscito ad avere con la forza delle armi. Ho pensato che Conan potrebbe essere una delle sue spie. Staremo a vedere. Se tiene i suoi... Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. E scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Pronto, ufficio soluzioni esagerate. Salve, sono Luca Soldoni, consulente finanziario. Chiamo perché devo fare i conti con le tasse. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni pasto ticket Restaurant Edred. Sono deducibili anche per una partita IVA come te. E scarichi tutto con una fattura unica. E poi sono spendibili in tutta Italia anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente Edred. Uomini, domani all'alba si farà trovare alle porte per parlamentare. Passerò la notte qui alla fortezza. Sono entrata a Peshkauri sotto mentite spoglie e ho fatto alloggiare il mio seguito alla locanda anziché a palazzo. Oltre alla mia gente, soltanto tu sai della mia presenza qui. Vi scorterò adesso ai vostri alloggi, vostra maestà, disse il governatore, e mentre uscivano in un corridoio fece un cenno al guerriero di guardia e costui li seguì con la lancia alzata. La serva, che indossava lo stesso vestito della padrona, attendeva fuori della porta, e il gruppo attraversò un ampio corridoio con numerose giravolte, illuminato da torce fumose, per poi raggiungere gli alloggi riservati ai personaggi importanti giunti in visita, principalmente generali e viceré. Nessun membro della famiglia reale aveva mai onorato prima d'allora la fortezza. Chundershan aveva la sgradevole sensazione che l'appartamento non fosse adatto a un alto personaggio come la Devi, e anche se lei si sforzava di farlo sentire a proprio agio in sua presenza, fu lieto quando venne congedato e fece l'inchino di commiato. Chiamò quindi a raccolta tutti i servitori del forte per assistere la regale ospite, anche se non divulgò la sua identità, e fece mettere davanti alle porte del suo appartamento un drappello di lancieri, tra i quali c'era anche quello che sorvegliava la sua stanza personale. Agitato com'era, scordò di farlo rimpiazzare da un altro guerriero. Il governatore l'aveva appena lasciata, quando Yasmina ricordò improvvisamente un'altra cosa della quale desiderava discutere con lui, ma che fino a quel momento sembrava aver dimenticato. Riguardava il comportamento passato di un certo Kerim Shah, un nobile iranistano che era rimasto per qualche tempo a Peshkauri prima di trasferirsi alla corte di Ayodhya. Le era venuto un vago sospetto su di lui quando l'aveva intravisto la sera prima a Peshkauri. Si chiedeva se non l'avesse seguita da Ayodhya. Essendo una Devi un po' particolare, non convocò nuovamente il governatore, ma uscì invece nel corridoio, dirigendosi in fretta in camera sua. Chundershan, non appena entrato, chiuse la porta e si diresse al tavolo, dal quale prese la lettera che stava scrivendo e la stracciò. Aveva appena finito di farlo quando udì un leggero rumore sul parapetto adiacente la finestra. Alzò gli occhi e vide profilarsi per un attimo una sagoma contro le stelle. Poi un uomo atterrò con leggerezza dentro la stanza. La luce rivelò la lunga lama d'acciaio che teneva in mano. Non fare il minimo rumore, altrimenti manderò al diavolo un altro dei tuoi seguaci. Il governatore si bloccò mentre cercava di agguantare la spada posata sul tavolo. Era a portata del coltello la malunga di Zaibar che scintillava nel pugno dell'intruso e sapeva con quanta velocità sapeva muoversi un nomade. L'invasore era un tipo alto, visibilmente forte e muscoloso. Era vestito da montanaro, ma il suo volto minaccioso e gli scintillanti occhi azzurri non si adattavano all'abbigliamento. Chundershan non aveva mai visto un uomo simile. Non era un orientale, doveva essere un barbaro venuto dall'ovest, ma aveva l'aria indomabile e minacciosa di qualunque nomade irsuto dalle montagne del Gulistan. «Vieni come un ladro nella notte!» osservò il governatore ritrovando un po' di contegno, nonostante ricordasse che non c'erano guardie nei paraggi. Il montanaro però non poteva saperlo. «Ho scalato uno dei bastioni. Una sentinella ha messo fuori la testa appena in tempo per farsi colpire dall'elsa del mio pugnale!» «Tu sei Conan?» «E chi altri? Hai fatto sapere sulle montagne che desideravi che venissi a parlamentare con te! Bene, per Crom sono venuto! Sta lontano da quel tavolo, ti apro le budella!» «Volevo solo sedermi!» rispose il governatore, adagiandosi lentamente sulla sedia d'avorio e scostandola dal tavolo. Conan camminava irrequieto davanti a lui, lanciando occhiate sospettose alla porta e passando il pollice sulla lama affilata del suo coltello. Non si comportava come un afghuli ed era brutalmente diretto, laddove l'orientale è sottile. Hai 7 dei miei uomini e hai rifiutato il riscatto che ti ho offerto. Che diavolo vuoi? Discutiamo le condizioni, rispose Chundershan cauto. Le condizioni? Che intendi dire? Non ti ho offerto forse dell'oro? Chundershan rise. Oro? A Peshkauri c'è più oro di quanto tu ne abbia mai visto. Sei un bugiardo. Ho visto il succo degli orafi a Kurusun. Beh, ce n'è di più di quanto un afghuli abbia mai visto. E non è che una goccia paragonata al tesoro di Vendia. Perché dovremmo volere dell'oro? Ci farebbe molto più comodo impiccare quei 7 ladri. Conan dette libero sfogo a un'imprecazione micidiale e la lunga lama del coltello tremò nel suo pugno mentre i muscoli del suo braccio bronzeo si gonfiavano. «Ti taglierò in due la testa come un melone maturo!» Negli occhi del montanaro brillava una selvaggia luce azzurra, ma Chunder Shan si limitò ad alzare le spalle, pur continuando a tenere d'occhio l'acciaio affilato. «Mi puoi uccidere facilmente e probabilmente riusciresti anche a scappare!» Ma questo non salverebbe i tuoi 7 uomini. Le mie guardie li impiccherebbero di sicuro. E quegli uomini sono dei capi tribù tra gli afghuli. Lo so. La gente della tribù mi abbaia dietro come un branco di lupi perché non sono ancora riuscito a liberarli. Dimmi in poche parole che cosa vuoi e perché, per Crom. Se non c'è altro modo, solleverò un'orda e la guiderò fino alle porte stesse di Peshkauri. Guardando quell'uomo gigantesco con il coltello in pugno e gli occhi fiammeggianti, Chunder Shan non dubitava che ne fosse davvero capace. Il governatore non credeva che un'orda di montanari potesse prendere davvero Peshkauri, ma non desiderava che devastassero il territorio circostante. «Devi svolgere una missione», disse, scegliendo le parole con cura come se fossero rasoi. «C'è...» Conan era balzato indietro, girandosi al tempo stesso come un turbine verso la porta, un ringhio feroce sulla bocca. Le sue orecchie di barbaro avevano udito il soffice calpestio di pantofole fuori dalla porta. Un secondo dopo questa si aprì e una figura snella, vestita di seta, entrò dentro velocemente. Poi la richiuse e si fermò istantaneamente nel ritrovarsi di fronte il montanaro. Chunder Shan balzò dalla sedia con il cuore in gola. «Devi!» Gli sfuggì involontariamente, perdendo per un attimo la testa, tanto era lo spavento. «Devi!» Quella parola fu come un'esplosione nella bocca del montanaro. Chunder Shan vide nei suoi fieri occhi azzurri un lampo di riconoscimento e un proposito. Il governatore urlò disperatamente e afferrò la spada, ma il montanaro si mosse con la furia devastante di un uragano. Lanciandosi contro di lui, lo colpì selvaggiamente con l'elsa del suo pugnale, afferrò la sbalordita Devi con un poderoso braccio bronzeo e saltò dalla finestra. Chunder Shan, rimettendosi freneticamente in piedi, vide per un attimo l'uomo sul davanzale in uno svolazzare di vesti di seta e membra bianche appartenenti alla sua regale prigioniera e udì il suo ringhio fiero ed esultante. «Adesso prova a impiccare i miei uomini!» Poi Conan saltò dal parapetto e scomparve. Un urlo selvaggio gli rimbombò nelle orecchie. «Guardie! Guardie!» strillò il governatore, rimettendosi goffamente in piedi e correndo barcollando alla porta. L'aprì e si lanciò fuori. Le sue grida echeggiarono per tutti i corridoi e i guerrieri accorsero e rimasero senza parole nel vedere il governatore che si comprimeva con le mani la testa rotta dalla quale colava sangue. «Fate uscire i lancieri! C'è stato un rapimento!» Perfino nella foga del momento ebbe il buon senso di non rivelare tutta la verità. All'improvviso si arrestò, udendo di fuori un calpestio di zoccoli, un grido convulso e un selvaggio urlo di barbarica esultanza. Seguito dalle guardie sgomente, il governatore si lanciò per le scale. Nel cortile del forte c'era sempre un drappello di lancieri in groppa ai destrieri sellati, pronti a scattare al minimo segnale. Chunder Shan guidò il suo squadrone dietro al fuggitivo, anche se la testa gli girava talmente da essere obbligato a reggersi alla sella con tutte e due le mani. Non divulgò l'identità della vittima, limitandosi a dire che la nobil donna che portava l'anello reale era stata rapita dal capo degli afghuli. Il rapitore era sparito e gli zoccoli del suo cavallo non si sentivano. Ma gli inseguitori sapevano quale strada avrebbe fatto, quella che correva diritta alla bocca dello Zaibar. La luna non c'era. Le capanne dei contadini si intravedevano appena alla luce delle stelle. Alle loro spalle scomparvero il torvo bastione del forte e le torri di Peshkauri. Davanti a loro svettavano le nere pareti dei monti Imeliani. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Tre. Nella confusione che regnava al forte mentre le guardie si precipitavano fuori, nessuno si accorse che la ragazza che aveva accompagnato la Devi era scivolata furtivamente dalla grande porta d'arco ed era sparita nel buio. Costei corse diritta in città, sollevando le vesti. Non prese la strada aperta, ma tagliò per i campi e per le valli, evitando gli steccati e i canali di irrigazione con una tale sicurezza come se fosse giorno e con la facilità di un uomo addestrato alla corsa. Lo scalpitio dei cavalli dei soldati si era già allontanato sulla strada di montagna prima che la ragazza raggiungesse le mura della città. Non andò al cancello principale, sotto il cui arco erano appostati nell'ombra gli arcieri, intenti a discutere del trambusto che c'era al forte. Seguì invece il muro fino a raggiungere un certo punto, da dove si vedeva la guglia di una torre alta sui bastioni. Allora portò le mani alla bocca e intonò a bassa voce uno strano richiamo. Quasi all'istante, sul parapetto, apparve una testa e lungo il muro venne calata una corda. La ragazza l'afferrò, infilò un piede nel cappio che si trovava all'estremità e agitò un braccio. Allora, rapidamente e silenziosamente, venne issata sulla parete di pietra perpendicolo. Un attimo dopo si arrampicò sui merli e si rialzò in piedi sul tetto piatto di una casa addossata al muro. C'era una botola aperta sul tetto e un uomo in una tunica color cammello arrotolò silenziosamente la corda, senza mostrare il minimo segno di fatica per aver issato una donna su un muro di 40 piedi. «Dov'è Kerim-san?» domandò la ragazza, ansimando senza fiato dopo la lunga corsa. «Dorme nella sua casa qui sotto. Hai notizie per lui?» «Conan ha rapito la Devi dal forte e l'ha portata sulle montagne.» Riferì le notizie mangiandosi le parole per la fretta. Kemsa non mostrò la minima emozione e si limitò ad annuire con la testa avvolta nel turbante. «Kerim-sha sarà felice di saperlo», disse. «Aspetta!» La ragazza gli gettò al collo le braccia voluttuose. Respirava ansimando, ma non solo per la fatica. I suoi occhi brillavano come gioielli neri alla luce delle stelle. Il suo volto reclinato era vicinissimo al viso di Kemsa, ma l'uomo, pur accettando il suo abbraccio, non lo ricambiò. «Non dirlo all'Ircaniano. Teniamoci per noi questa notizia. Il governatore è salito sulle montagne con i suoi soldati, ma potrebbe andare a caccia di un fantasma. Non ha detto a nessuno che è la Devi la donna rapita. Non lo sa nessuno, né a Peshkauri, né al forte, eccetto noi.» «Ma di quale utilità potrebbe esserci? I miei padroni mi hanno mandato con Kerim-sha perché lo aiuti in un certo modo.» «Pensa a te stesso», gli disse quella con fierezza. «Liberati dal cappio.» «Intendi dire disobbedire ai miei padroni?» Era esterrefatto e la donna sentì che il suo corpo diventava di ghiaccio nel suo abbraccio. «Sì, anche tu sei mago. Perché essere uno schiavo? Perché usare i tuoi poteri per il tornaconto di altri? Usa le arti a tuo vantaggio.» «È proibito! Io non faccio parte del cerchio nero. Soltanto se me lo ordinano i padroni oso ricorrere alle conoscenze che loro mi hanno trasmesso.» «Ma tu le sai usare. Fa come ti chiedo. Ovviamente Conan ha preso la Devi per tenerla come ostaggio da cambiare con i 7 capotribù rinchiusi nelle prigioni del governatore. Uccidili, così Kundershan non potrà usarli per riavere la Devi. Poi saliremo sulle montagne e la rapiremo agli Afghuli. Non possono opporsi con i loro coltelli alla tua magia. Chiederemo come riscatto il tesoro del re di Vendia. E poi, quando sarà nelle nostre mani, potremo ingannarli e venderla al re del Turan. Saremo ricchi oltre ogni immaginazione e con il tesoro potremo assoldare dei guerrieri. Prenderemo Korbul, cacceremo i turaniani dalle montagne e manderemo i nostri nemici a sud. Saremo il re e la regina di un immenso impero. Adesso anche Kemsa era agitato e tremava come una foglia tra le braccia dell'amante. La sua faccia, rischiarata dalle stelle, mostrava grosse gocce di sudore. «Io ti amo!» gridò la donna appassionatamente, stringendosi a lui, quasi soffocandolo nel suo abbraccio e scuotendolo nel trasporto dell'esaltazione. «Farò di te un re! Per amor tuo io ho tradito la mia padrona. Per amor mio, tradisci anche tu i tuoi. Perché temere i veggenti neri? Innamorandoti di me hai già infranto le loro leggi. Infrangi anche il resto. Tu sei forte come loro!» Neanche un uomo di ghiaccio avrebbe potuto resistere al fuoco bruciante della passione e della furia. Con un grido selvaggio l'attirò a sé con violenza, poi le piegò il collo e la tempestò di baci ansimanti sugli occhi, sulla faccia e sulle labbra. «Lo farò!» aveva la voce impastata dalle emozioni e traballava come un ubriaco. «Le arti che essi mi hanno insegnato lavoreranno per me anziché per loro! Noi due domineremo il mondo! Il mondo!» Liberandosi agilmente dal suo abbraccio, lei lo prese per mano e lo condusse alla botola. Egli la seguì come stordito. Poi scesero una scala e la ragazza si fermò nella stanza di sotto. Kerim Shah era sdraiato su un divano, immobile, con un braccio sulla faccia, come se volesse schermare gli occhi dalla luce della lampada d'ottone. Lei afferrò Kemsa per il braccio e fece un rapido gesto sulla gola. Kemsa sollevò la mano, poi la sua espressione mutò e lui abbandonò il proposito. «Ho mangiato il suo sale e poi non può interferire con i nostri piani!» Condusse allora la ragazza a una porta che si apriva su una scala a chiocciola. Quando l'eco dei loro passi felpati si spense nel silenzio, l'uomo sul divano si alzò. Kerim Shah si deterse il sudore dalla fronte. Non aveva paura di un coltello, ma temeva Kemsa come si teme un rettile velenoso. «La gente che trama sui tetti dovrebbe ricordare di abbassare la voce. Dal momento che Kemsa si è rivoltato contro i propri padroni e dal momento che era il mio unico contatto con loro, non posso più contare sul loro aiuto. Da adesso in poi condurrò il gioco a modo mio!» Si alzò in piedi e si portò velocemente ad un tavolo. Prese penna e pergamena dalla cintura e scrisse poche righe succinte. «A Khosru Khan, governatore di Secunderam. Conan il Cimmero ha portato la Devi Yasmina ai villaggi degli Afghuli. È una buona occasione per avere la Devi in mano nostra, come il re desiderava da tanto tempo. Manda subito 3.000 uomini a cavallo. Ci troveremo nella valle di Gurashah con le guide indigene.» E firmò con un nome che non somigliava affatto a Kerim Shah. Poi, da una gabbia d'oro... Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. E scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. E scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Tirò fuori un piccione viaggiatore e gli legò la pergamena a una zampa con del filo d'oro, dopo averla inserita in un piccolo cilindro. Quindi si portò rapidamente alla finestra e lanciò l'uccello nella notte. La bestiola sbatté le ali, trovò l'equilibrio e scomparve come un'ombra. Prendendo elmo, spada e mantello, Kerim Shah corse fuori dalla stanza e scese le scale. Le prigioni di Peshkauri erano separate dal resto della città da un muro massiccio, nel quale era incassata una porta di ferro sormontata da un arco. Sopra l'arco brillava una lanterna rossa e nel vano della porta era appiattito un guerriero armato di scudo e di lancia. Questo guerriero, che ogni tanto sbadigliava e se ne stava appoggiato alla lancia, si mise improvvisamente dritto. Non gli pareva di essersi addormentato. Eppure davanti a lui c'era un uomo che non aveva sentito arrivare. L'uomo indossava una tunica di pelo di cammello e un turbante verde. Alla fioca luce della lanterna il suo viso rimaneva in ombra, ma gli occhi gli brillavano sorprendentemente. «Chi è?» domandò il soldato puntando la lancia. «Chi sei?» Lo sconosciuto non parve minimamente turbato, anche se la lancia gli sfiorava il petto. I suoi occhi scrutarono il guerriero con una strana intensità. «Qual è il tuo dovere?» «Sorvegliare la porta!» Il guerriero parlò meccanicamente. Poi divenne rigido come una statua e i suoi occhi assunsero lentamente un'espressione vitrea. «Tu menti! Il tuo dovere è obbedirmi! Hai guardato nei miei occhi e ora la tua anima non ti appartiene più! Apri quella porta!» Rigidamente, con una faccia lignea come quella di una statua, la guardia si girò, prese una grossa chiave dal cinturone, poi la infilò nella serratura massiccia e aprì la porta. Quindi si mise sull'attenti con lo sguardo fisso nel vuoto. Dall'ombra uscì una donna che posò in fretta la mano sul braccio del mesmerita. «Ordinagli di andare a prendere i nostri cavalli, Kemsa.» «Non ce n'è bisogno!» Poi, alzando leggermente la voce per parlare alla guardia, «Non mi servi più! Ucciditi!» le ordinò. Come in trance, il guerriero puntò l'estremità della lancia contro il muro e accostò il corpo alla punta sotto le costole. Quindi lentamente vi si appoggiò di peso e la lancia lo trafisse fuoriuscendo in mezzo alle spalle. Scivolò a terra e giacque immobile, con la lancia che gli spuntava fuori dalla schiena come un orrendo peduncolo. La ragazza lo guardò macabramente affascinata. Poi Kemsa la prese per un braccio e la condusse verso la porta. Le torce illuminavano uno stretto corridoio tra il muro esterno e il muro interno, dove apparivano porte ad arco a intervalli regolari. Davanti a quella zona era appostata una sentinella, la quale, non appena il cancello si aprì, venne avanti a passo lento, talmente sicura dell'impenetrabilità della prigione da non avere il minimo sospetto, finché Kemsa e la ragazza non uscirono dall'ombra. E allora fu troppo tardi. Il Raksha Kemsa non perse tempo ad ipnotizzarlo, sebbene il suo intervento avesse del magico agli occhi della ragazza. La guardia abbassò la lancia minacciosamente e aprì la bocca per gridare l'allarme e far accorrere i lancieri dai loro posti di guardia che si trovavano ai due lati del corridoio. Kemsa allontanò la lancia con la sinistra come si allontana una pagliuzza, mentre con la destra colpiva il soldato con tale rapidità da sembrare una gentile carezza al collo. E la guardia cadde faccia a terra, senza emettere un suono, la testa ciondolante sul collo spezzato. Kemsa non lo degnò di uno sguardo e si diresse invece a una delle porte ad arco e posò la mano aperta sul pesante catenaccio di bronzo. Con un cigolio di resa, la porta si spalancò verso l'interno. Mentre lo seguiva dentro, la ragazza vide che le ante massicce di Tek si erano scheggiate, che le borchie di bronzo si erano incurvate ed erano uscite dall'incasso e che i grossi cardini si erano spezzati e staccati. Un ariete di sfondamento dal peso di 1000 libbre, spinto da 40 uomini, non sarebbe riuscito a rompere meglio la barriera. Kemsa era esaltato da quella sensazione di libertà e dall'impiego del proprio potere. Si gloriava della sua potenza e dava sfogo alla sua forza come un giovane gigante esercita i propri muscoli in indomito vigore nell'orgoglio esultante della propria potenza. Dalla porta rotta entrarono in un piccolo cortile illuminato da una lanterna. Dall'altra parte c'era una grande inferriata. Si vedeva una mano irsuta aggrappata ad una sbarra e nel buio brillavano degli occhi. Kemsa rimase in silenzio per un po' a scrutare l'ombra nella quale quegli occhi scintillanti ricambiavano il suo sguardo con bruciante intensità. Poi infilò la mano nel vestito e la tirò fuori di nuovo, e dalle sue dita aperte un alone luccicante di polvere sfavillante si sollevò e si posò sul pavimento. Immediatamente una fiammata verde illuminò la recinzione. In quel breve sfolgorio apparvero in primo piano le sagome di 7 uomini immobili dietro le sbarre. Uomini alti, irsuti, abbigliati con vesti lacere dei montanari. Non parlarono, ma nei loro occhi brillò la paura della morte e le loro dita pelose si aggrapparono alle sbarre. La fiammata si spense, ma il chiarore rimase, diffuso da una sfera di luce verde che pulsava e scintillava sul pavimento davanti ai piedi di Kemsa. Lo sguardo selvaggio degli uomini della tribù era fisso su questa. La sfera tremolò, si allungò, poi si tramutò in una luccicante spirale di fumo verde che salì verso l'alto. Si contorse come un grosso serpente scuro, poi si allargò e si diffuse in spire e vortici risplendenti. Divenne una nuvola che si muoveva silenziosamente sul pavimento, dirigendosi all'inferriata. Gli uomini la videro avvicinarsi con gli occhi sgranati. Le sbarre tremavano sotto la stretta disperata delle loro mani. Le bocche barbute si aprirono, ma non ne uscì alcun suono. La nuvola verde si avvolse intorno alle sbarre e li fece sparire dalla vista. Come una nebbia, penetrò nell'inferriata e nascose gli uomini che vi erano rinchiusi. Dai suoi tentacoli avviluppanti uscì un rantolo soffocato, come di un uomo immerso improvvisamente con la faccia sott'acqua. E nient'altro. Kemsa scosse il braccio della ragazza, la quale era rimasta in piedi con la bocca spalancata e gli occhi sgranati. Come un automa, lei si allontanò con lui, girandosi a guardare indietro. La nebbia stava già assottigliandosi. Vicino alle sbarre vide due piedi calzati di sandali con le punte rivolte in alto e scorse i contorni indistinti di 7 forme immobili e prone. «E adesso il destriero più veloce del miglior puro sangue mai allevato in stalle mortali! Saremo nell'Afghulistan prima dell'alba!» Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Quattro. La Devi Yasmina non riusciva a ricordare con chiarezza i particolari del rapimento. La violenza e la fulmineità con cui si era verificato quell'avvenimento inaspettato l'avevano stordita. Le era rimasto soltanto un'impressione confusa. La stretta terrificante di un braccio possente, gli occhi fiammeggianti del suo rapitore e il suo alito caldo che le bruciava la pelle. Il salto dalla finestra sul parapetto, la folle corsa tra i tetti e i bastioni con la paura paralizzante di cadere, la calata con una fune legata a un merlo. Era sceso giù quasi di corsa, mettendosi la prigioniera di traverso sulle spalle bronze. Era tutto una girandola confusa nella mente della Devi. Ricordava meglio quando l'energumeno aveva cominciato a correre all'ombra degli alberi, portandola come una bambina. E quando era balzato in sella un fiero stallone alcano che nitriva e sbuffava. Poi la sensazione di volare e gli zoccoli che lasciavano scie di scintille sul selciato polveroso mentre lo stallone divorava le distanze. Mentre la sua testa si schiariva, le prime reazioni della ragazza furono di furiosa collera e vergogna. Era esterrefatta. I sovrani dei regni dorati al sud degli Imeliani erano considerati una specie di divinità e lei era la Devi di Vendia. L'ira regale superava lo spavento. Si mise a urlare furiosamente cercando di liberarsi. Lei, Yasmina, trasportata sulla sella di un capo montanaro come una comune stracciona della piazza del mercato. In risposta al suo dimenarsi, l'uomo si limitò a irrigidire i muscoli poderosi. E per la prima volta nella vita la ragazza sperimentò la coercizione della pura forza fisica. Le braccia di lui erano forti come tenaglie di ferro attorno alle sue fragili membra. L'energumeno le lanciò un'occhiata dall'alto e rise sguaiatamente. I suoi denti bianchi brillarono alla luce della luna. Le redini erano lasciate lente sull'affluente criniera dello stallone e ogni muscolo e ogni fibra del grosso bestione si contraevano tutte le volte che incontrava un sasso lungo la strada sdrucciolevole. Conan, tuttavia, era seduto comodamente, quasi con noncuranza sulla sella, e cavalcava come un centauro. «Tu, cane di un montanaro!» gli disse Yasmina senza fiato, tremando per la vergogna, la rabbia e la consapevolezza della propria impotenza. «Come osi? Come osi? Pagherai con la vita per questo! Dove mi stai portando?» «Ai villaggi afghuli!» le rispose, lanciando un'occhiata alle spalle. Dietro di loro, oltre i dirupi che avevano attraversato, si vedevano brillare le torce sulle mura della fortezza e un chiarore indicava che la grande porta era stata aperta. Allora scoppiò in una risata fragorosa come il vento delle montagne. «Il governatore ci ha mandato dietro i suoi cavalieri! Per Crom, gli faremo fare una caccia davvero divertente! Tu che ne dici, Devi? Saranno disposti a pagare 7 vite per una principessa Xatria? Manderanno un esercito per impiccare te e i tuoi diavoli!» Conan rise di gusto e la spostò in una posizione più comoda tra le sue braccia. Ma questo servì soltanto a farla esplodere in un nuovo accesso di collera e a rinnovare i suoi inutili sforzi per liberarsi. Finché si accorse che la cosa lo divertiva. Concluse che una sprezzante sottomissione era più dignitosa e si abbandonò ad un apparente stato di quiete. Si accorse che perfino la collera veniva sommersa dalla paura non appena entrarono nella bocca del passo, il cui antro pareva un pozzo nero ancora più fondo delle pareti colossali che sbarravano loro la strada. Sembrava che un enorme coltello avesse tagliato lo Zaibar fra pareti di solida roccia. Da entrambi i lati si ergevano strapiombi alti centinaia di piedi e l'ingresso del passo era nero come l'odio. Nemmeno Conan riusciva a vederci bene, tuttavia conosceva la strada, anche di notte, e sapendo di essere inseguito da uomini armati che correvano sotto la luce delle stelle, non frenò la velocità dello stallone. Il grosso bruto non dava ancora segni di stanchezza. Scalpitò sulla strada che seguiva il letto della valle. Si inerpicò su un pendio, superò una roccia bassa dove scisti pericolosi insidiavano da entrambi i lati gli incauti e giunse su un sentiero che seguiva la base della parete di sinistra. Neppure Conan avrebbe potuto accorgersi con quel buio di un'imboscata preparati dai montanari dello Zaibar. E mentre superavano l'imboccatura nera di una gola che si apriva nel passo, fischiò nell'aria un giavellotto che si conficcò nella schiena dello stallone. Il bestione esalò l'ultimo respiro con un singulto tremante e poi stramazzò a terra di colpo. Ma Conan si era accorto dello sfrecciare del giavellotto e agì di conseguenza con sbalordiva rapidità. Mentre il cavallo cadeva, saltò giù dalla sella, tenendo sollevato la ragazza per proteggerla dai massi. Si rimise in piedi con l'agilità di un gatto, la nascose nella cavità di una roccia e ritornò come un turbine verso il buio sfoderando il suo pugnale. Yasmina, stordita dalla rapidità di quegli eventi, non troppo sicura di quello che era accaduto, vide un'ombra balzare fuori dal buio. L'ombra atterrò sofficemente a piedi nudi sulla roccia, facendo frusciare gli abiti stracciati. Yasmina vide il luccichio di una lama, udì il sibilo di un fendente, il rumore di una parata e di un secondo fendente. Poi uno schianto di ossa, mentre il lungo coltello di Conan trapassava il cranio dell'avversario. Conan balzò in ritirata, riparandosi tra le rocce. Nella notte si udì un rumore di uomini e una voce stentorea sbraitò: «Razza di cani, che fate? Fuggite! Muovetevi, maledizione a voi, e prendeteli!» Conan trasalì, scrutò nelle tenebre e alzò la voce. «Yarafzal, sei tu?» Si udì un'imprecazione di sorpresa e la voce chiamò con circospezione. «Conan! Sei tu, Conan?» «Sì! Vieni fuori, vecchio mastino! Ho ucciso uno dei tuoi!» Ci fu un movimento tra le rocce. Brillò una luce e poi apparve una fiamma che avanzò ondeggiando verso di lui. E a mano che si avvicinava, dal buio uscì una sagoma. Non Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Ufficio Soluzioni Esagerate. Buongiorno, sono Marco Quercia, falegname. Vi contatto perché le tasse mi martellano. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni pasto ticket Restaurant Edred, 100% deducibili per aziende e semplici da attivare. E poi li usi in tutta Italia, anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente Edred. Fiera con la barba. L'uomo che portava la torcia la sollevò in alto e allungò il collo per scrutare tra i massi. Nell'altra mano teneva un grosso tulwar ricurvo. Conan venne avanti, rinfoderando il coltello, e l'altro lo salutò con un grido. «Ehi, ragazzi, è Conan! Uscite dalle rocce, cani! È Conan!» Accorsero anche gli altri nel cerchio di luce. Uomini selvaggi, laceri, barbuti, con occhi da lupo e lunghe lame nel pugno. Non videro Yasmina perché la ragazza veniva nascosta dal corpo massiccio di Conan. Scrutando dal suo riparo, però, quella notte Yasmina conobbe per la prima volta la morsa gelida della paura. Quegli uomini sembravano più dei lupi che degli esseri umani. «Di che cosa vai a caccia sullo Zaibar di notte, Yarafzal?» domandò Conan al burbero capo, il quale rise come un demone barbuto. «Chissà quale selvaggina potrebbe capitare qui al passo dopo il crepuscolo! Ah, noi Wazuli siamo predatori notturni! E invece tu che ci fai qui, Conan?» «Ho una prigioniera!» rispose il cimmero, spostandosi da una parte, e scoprì la ragazza rannicchiata contro la roccia. Allungando un lungo braccio, la tirò fuori dalla fenditura tutta tremante. I modi imperiosi della Devi erano scomparsi. Adesso guardava timidamente il cerchio di facce barbute che l'attorniava ed era felice che quel braccio forte la tenesse in quel modo possessivo. Le avvicinarono la torcia. Poi tutto il cerchio rimase a bocca aperta. «È mia prigioniera. La stavo portando nell'Afghulistan, ma adesso mi avete ammazzato il cavallo e gli Xatria mi stanno alle costole. E vieni con noi al nostro villaggio! Abbiamo dei cavalli nascosti nella gola! Non riusciranno mai ad inseguirci con questo buio! Ti sono alle costole, hai detto?» «Mi sono talmente addosso che riesco a sentire lo scalpitio dei loro zoccoli sulla strada!» rispose Conan con un ghigno truce. Ci fu istantaneamente movimento. La torcia venne spenta e gli straccioni si dileguarono nel buio come fantasmi. Conan prese in braccio la Devi, e lei non oppose resistenza. Il terreno roccioso le feriva i piedi nelle soffici scarpine e si sentiva minuscola e indifesa in quelle tenebre brutali e primordiali, tra quelle rocce colossali e nascoste dalla notte. Sentendola tremare al vento che mugghiava tra le gole, Conan strappò un mantello dalle spalle di un uomo e ve la avvolse. Le sibilò anche un avvertimento all'orecchio, ordinandole di non dire una parola. La ragazza non sentiva il lontano fragore di zoccoli che battevano sulla roccia, mettendo in guardia l'udito fine dei montanari, ma era troppo spaventata per disobbedire. Non vedeva altro che qualche stella su in cielo, ma si accorse che avevano imboccato la gola quando la tenebra divenne più fitta. Ci fu un movimento intorno a loro, un movimento irrequieto di cavalli. Qualcuno mormorò qualcosa. E Conan montò sul cavallo dell'uomo che aveva ucciso, issando la ragazza davanti. Come fantasmi, salvo lo scalpitio degli animali, la banda risalì la gola tenebrosa. Alle loro spalle lasciavano lo stallone atterrato e l'uomo morto, i quali vennero trovati meno di un'ora dopo dai soldati della fortezza, che riconobbero nell'uomo un Wazuli e tirarono conseguentemente le loro conclusioni. Yasmina, accoccolata al calduccio tra le braccia del suo rapitore, cominciava a cedere al sonno, suo malgrado. I movimenti del cavallo, sebbene fosse irregolare su quella strada fatta di continue salite e discese, aveva lo stesso un certo ritmo, il quale, unito alla stanchezza e all'emozione provata, le induceva sonnolenza. aveva perso ogni cognizione del tempo e dello spazio. Avanzavano nel buio accogliente, nel quale ogni tanto scorgeva vagamente muraglie rocciose gigantesche che si alzavano come neri bastioni o alte cime aguzze che coprivano le stelle. A volte le pareva di udire degli echi rimbombare negli abissi sotto di loro o sentiva lo sferzare gelido del vento venuto dai picchi vertiginosi. Poco a poco divenne tanto confuso come in un sogno, e in quel torpore lo scalpitio degli zoccoli e il cigolio delle selle divennero suoni lontani. Si accorse vagamente che il movimento era cessato, che veniva fatta scendere da cavallo e trasportata per qualche passo. Poi venne adagiata su qualcosa di soffice e di frusciante, e sotto la testa le misero qualcosa, una coperta piegata forse, e la coprirono premurosamente con il mantello nel quale era avvolta. Sentì anche la risata di Yar Afzal. È una preda rara, Conan! Adatta a un capo degli Afghuli! Non è per me! Con questa femmina comprerò la vita dei miei 7 capi tribù! Maledizione all'anima loro! Queste furono le ultime parole che Yasmina udì prima di sprofondare in un sonno senza sogni. Dormiva ancora mentre gli uomini armati cavalcavano sulle buie montagne e il destino di interi regni era in bilico. Per le gole e i tenebrosi crepacci risuonarono quella notte zoccoli di cavalli al galoppo e la luce delle stelle brillò sugli elmi e sulle lame ricurve, e alla fine anche le sagome spettrali che popolano le rocce scrutarono nelle tenebre dai massi e dai burroni, chiedendosi quali cose si stessero preparando. Una banda di costoro, in sella scheletriche cavalcature, si nascose all'imboccatura di una gola nera come la pece, mentre passavano i cavalli al galoppo. Il loro capo, un uomo ben piantato, con l'elmo e il mantello ricamato d'oro, alzò la mano in un gesto d'avvertimento, finché i cavalieri non furono passati. E poi ridacchiò. Devono aver smarrito la strada, altrimenti avrebbero scoperto che Conan ha già raggiunto i villaggi degli Afghuli. Ci vorranno molti cavalieri per soffocare quel vespaio. All'alba ci saranno interi squadroni su per lo Zaibar. Se ci sarà battaglia sulle montagne, ci sarà anche bottino, mormorò una voce alle sue spalle nel dialetto degli Irakzai. Ci sarà bottino. Prima di tutto però dobbiamo raggiungere la valle di Gurasha e aspettare lì i cavalieri che da Secunderam si metteranno al galoppo verso sud prima della luce del giorno. L'uomo prese le redini del cavallo e uscì dalla gola seguito dai suoi uomini, 30 fantasmi vestiti di stracci sotto la luce delle stelle. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. E scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Cinque. Il sole era già alto quando Yasmina si svegliò. Non saltò a sedere con gli occhi sgranati chiedendosi dove si trovava, perché sapeva benissimo che cosa era successo. Le sue agili gambe si erano irrigidite dopo quella lunga cavalcata e la sua carne soda sentiva ancora il contatto del braccio muscoloso che l'aveva portata fin lì. Era sdraiata su una pelle di pecora distesa su un giaciglio di foglie preparato sul nudo pavimento. Sotto la testa aveva un vello di pecora ed era avvolta in un mantello lacero. Si trovava in un'ampia stanza, i cui muri erano fatti di rude ma solida roccia, intonacata di fango seccato al sole. Delle travi pesanti sostenevano un tetto del medesimo materiale, nel quale si vedeva una botola a cui si arrivava con una scala. Non c'erano finestre nelle spesse pareti, soltanto feritoie. C'era una specie di porta di bronzo che doveva essere stata divelta da una torre di frontiera del Vendia. Di fronte a questa c'era un'ampia apertura nel muro, priva di porta, ma sbarrata da robuste travi di legno. Al di là, Yasmina vide un magnifico stallone nero che mangiava una pila d'erba secca. L'edificio fungeva al tempo stesso da fortino, abitazione e stalla. All'altro capo della stanza c'era una ragazza abbigliata con il corsetto e i pantaloni larghi delle montanare, seduta sui talloni davanti a un piccolo fuoco e intenta a cuocere delle strisce di carne su una griglia di ferro posate su due blocchetti di pietra. Nel muro, a pochi passi dal pavimento, c'era una fessura e da questa usciva gran parte del fumo. Il resto si increspava in riccioli azzurri che pervadevano l'ambiente. La montanara si girò e guardò Yasmina, mostrando un viso bello e orgoglioso. Poi riprese a cucinare. All'esterno echeggiavano delle voci. Poi la porta venne aperta con un calcio ed entrò Conan. Sembrava più imponente che mai con la luce del sole che lo illuminava alle spalle. E Yasmina poté notare dei particolari che la notte prima le erano sfuggiti. I suoi vestiti erano puliti e non erano logori. L'alto cinturone di Bakariot, al quale era infilato il fodero ornamentale del coltello, sarebbe stato degno di un principe, e sotto la camicia luccicava una fine maglia turaniana. La ragazza Wazuli disse a Conan che la prigioniera era sveglia, e il barbaro grugnì, si avvicinò al fuoco e mise in un piatto le strisce di montone. La ragazza rise maliziosamente e Conan digrignò i denti come un lupo, le infilò un piede sotto le cosce e la fece cadere per terra. La ragazza parve molto divertita dal rude scherzo, ma Conan non le prestò più attenzione. Prendendo da qualche parte una grossa pagnotta e una coppa di vino, li portò a Yasmina, la quale nel frattempo si era alzata dal giaciglio e lo stava scrutando dubbiosa. «Non è questo un cibo adatto ad una devi, ragazza, ma è tutto quello che abbiamo. Ti riempirà la pancia, se non altro!» Depose in terra il piatto e Yasmina si rese conto di avere una fame incontrollabile. Senza fare commenti, sedette a gambe incrociate sul pavimento e mettendosi il piatto in grembo, cominciò a mangiare con le mani, gli unici utensili che aveva a disposizione. In fin dei conti, sapersi adattare è una delle più alte prove di vera aristocrazia. Conan la osservò mangiare dall'alto, con i pollici infilati nel cinturone. Non si sedeva mai a gambe incrociate, come era usanza in Oriente. «Dove mi trovo?» domandò la Devi inaspettatamente. «Nella capanna di Yarafzal, il capo dei Wazuli di Kurum. L'Afghulistan è molte miglia a ovest. Ci nasconderemo qui per un po'. Gli Xatria stanno battendo tutte le montagne alla tua ricerca. Alcuni dei loro squadroni sono già stati decimati dagli uomini delle tribù.» «Che cosa hai intenzione di fare?» gli domandò. «Tenerti con me finché Chundarshan non sarà disposto a scambiarti con i miei 7 ladri di bestiame. Le donne Wazuli stanno schiacciando le foglie di sciochi e tra un po' potrai scrivere una lettera al governatore.» La scosse un ritorno della sua antica collera imperiosa, pensando a come i suoi piani fossero falliti lasciando la prigioniera proprio dell'uomo che aveva cercato di avere in suo potere. Gettò per terra il piatto con i resti del pranzo e si alzò in piedi, furiosa di collera. «Io non scriverò nessuna lettera! Se non mi riporterai indietro, impiccheranno i tuoi 7 uomini più altri 100!» La ragazza Wazuli rise con scherno e Conan la rimproverò. Poi si aprì la porta ed entrò Yarafzal. Il capo Wazuli era alto come Conan, ma aveva la circonferenza più larga e sembrava grasso e lento rispetto alla solidità del corpo muscoloso del cimero. Si tirò la barba macchiata di rosso fissando minacciosamente la ragazza Wazuli e la poverina si alzò e corse via senza indugi. Allora Yarafzal si rivolse al suo ospite. «Questi maledetti mormorano, Conan! Dicono che vogliono che ti uccida e che mi prenda la ragazza come ostaggio! Dicono che chiunque capisce dai suoi vestiti che ella è una nobile! Dicono perché i cani afghuli dovrebbero guadagnare tutto il profitto quando siamo noi che ci prendiamo il rischio di sorvegliarla!» «Allora prestami il tuo cavallo, la porterò con me e me ne andrò!» «Puah! E credi forse che io non sia in grado di controllare la mia gente? Li farò ballare in camicia se oseranno contraddirmi! Essi non ti amano, come non amano nessuno straniero, ma tu una volta mi hai salvato la vita, ed io questo non lo dimentico! Ma adesso andiamo fuori, Conan! È tornato un esploratore!» Conan si legò il cinturone e seguì il capo di fuori. Chiusero la porta alle loro spalle e Yasmina andò a spiare da una feritoia. Vide uno spiazzo davanti alla capanna. In fondo c'era un gruppetto di casupole di fango e pietra e vide dei bambini nudi che giocavano tra i sassi, mentre le donne, dritte e magre delle montagne, erano affaccendate ai loro compiti. Proprio davanti alla capanna del capo, di fronte alla porta, si era seduto in circolo un gruppo di uomini irsuti e laceri. Conan e Yarafzal si trovavano a pochi passi dalla porta e in mezzo a loro e al circolo di guerrieri c'era un terzo uomo, seduto a gambe incrociate. Costui stava parlando al suo capo nel rude dialetto Wazuli, che Yasmina capiva appena, sebbene parte della sua educazione reale avesse incluso l'insegnamento delle lingue dell'Iranistan e di quelle affine del Gulistan. «Ho parlato con un Dagozai che l'altra notte ha visto i cavalieri. Era nascosto lì vicino quando sono arrivati nel punto in cui abbiamo teso l'imboscata a sua signoria Conan. Ha udito i loro discorsi. Jundershan era con loro. Hanno trovato il cavallo morto e uno degli uomini ha detto che era quello di Conan. Poi hanno trovato l'uomo che Conan ha ucciso e hanno riconosciuto che era un Wazuli. Hanno pensato che Conan fosse stato ucciso e la ragazza rapita dai Wazuli. Così hanno rinunciato all'idea di arrivare nell'Afghulistan. Ma non sapevano da quale villaggio veniva il morto e noi non abbiamo lasciato tracce che uno Ksatriya potrebbe seguire. Così sono andati nel villaggio Wazuli più vicino, il villaggio di Yugra, e l'hanno bruciato e hanno ucciso molta gente. Agli uomini di Kojur gli sono saltati addosso nel buio e ne hanno uccisi parecchi, ferendo il governatore. Allora i superstiti si sono ritirati sotto lo Zaibar, aspettando l'alba. E quando è spuntato il sole sono tornati con i rinforzi e ci sono state schermaglie e combattimenti sui monti per tutta la mattina. Dicono che si sta radunando un grosso esercito per setacciare tutte le montagne intorno allo Zaibar. Le tribù hanno incominciato ad affilare i coltelli e a preparare le trappole a ogni valico tra qui e la valle di Gurashah. Inoltre, Kerim Shah è tornato sulle montagne. Tutto il circolo mugugnò e Yasmina, nel sentire il nome dell'uomo di cui cominciava a sospettare, si avvicinò di più alla feritoia. «Dov'è andato?» chiese Yarafzal. «Il Dagozai non lo sapeva. Con lui c'erano 30 Irakzai dei villaggi bassi. Si sono inerpicati sulle montagne e poi sono spariti.» «Questi Irakzai sono degli sciacalli che seguirebbero un leone per poche croste di pane. Leccano le monete che Kerim Shah distribuisce tra le tribù di frontiera per comprare gli uomini come fossero cavalli. Quell'uomo non mi piace, anche se è un nostro cugino dell'Iranistan.» «Non è questo», disse Conan. «Io lo conosco da tempo. È un Irkaniano, una spia di Yezdigerd. Se lo acchiappo, lo impicco a un tamarisco.» «Ma gli Ksatriya! Dobbiamo starcene seduti sulle ginocchia finché non ci avranno schiacciati. Alla fine lo sapranno in quale villaggio Wazuli viene tenuta una ragazza. I Zaibarani ci odiano e aiuteranno gli Ksatriya a darci la caccia.» «Che vengano pure!» grugnì Yarafzal. «Tra le gole possiamo resistere contro un intero esercito!» Uno degli uomini si alzò e agitò il pugno contro Conan. «Noi dobbiamo accollarci tutti i rischi mentre lui intasca il bottino! Dobbiamo combattere le sue battaglie per lui!» Con un lungo passo Conan lo raggiunse e si chinò leggermente per guardarlo bene in faccia. Il cimmero non aveva sfilato dal cinturone il suo lungo coltello, ma con la sinistra stringeva il fodero, puntandogli eloquentemente contro l'elsa. «Non chiedo a nessuno di combattere le mie battaglie. Sfila la tua arma, se hai coraggio, cane rabbioso!» Il Wazuli fece un passo indietro, ringhiando come un gatto. «Osa toccarmi e troverai 50 uomini pronti a farti a pezzi!» «Che cosa?» sibilò Yarafzal, livido di collera. I baffi si erano drizzati e la pancia si era gonfiata per la rabbia. «Sei forse tu il capo di Kurum? I Wazuli prendono ordini solo da Yarafzal? Oppure intendi che li prendono da un volgare bastardo?» L'uomo si fece piccolo al cospetto del suo invincibile capo e Yar'Afzal, andandogli vicino, lo afferrò per la gola e lo lasciò senza fiato finché non divenne livido. Poi lo scagliò con violenza per terra e gli fu sopra con il Tulwar in mano. «C'è qualcun altro tra di voi che vuole mettere in dubbio la mia autorità?» Ruggì, e i guerrieri abbassarono lo sguardo mentre i suoi occhi bellicosi passavano in rassegna il semicerchio. Yar'Afzal fece una smorfia di disprezzo e rinfoderò l'arma con un gesto che era il massimo dell'insulto. Poi prese a calci l'agitatore sconfitto con una vendicatività che fece urlare di dolore la sua vittima. «Scendi nella valle delle sentinelle appostate sulle cime e domanda loro se hanno visto niente!» gli ordinò Yar'Afzal, e l'uomo andò tremando di paura e serrando i denti per la rabbia. Yar'Afzal si era seduto maestosamente su un masso, mugugnando sotto la barba. Conan era lì in piedi accanto a lui, con le braccia divaricate e i pollici infilati nel cinturone. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Pronto, ufficio soluzioni esagerate. Salve, sono Luca Soldoni, consulente finanziario. Chiamo perché devo fare i conti con le tasse. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni fasto ticket Restaurant Edred. Sono deducibili anche per una partita IVA come te. E scarichi tutto con una fattura unica. E poi sono spendibili in tutta Italia anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente Edred. E osservava attentamente i guerrieri. Questi lo guardavano cupi, non osando suscitare la collera di Yar'Afzal, ma odiando lo straniero come solo un montanaro sa odiare. «E adesso ascoltatemi, figli di cagne bastarde, mentre vi dico che cosa abbiamo escogitato io e il signore Conan per giocare gli Xatria!» Il rimbombo della voce taurina di Yar'Afzal seguì il guerriero sconfitto che si allontanava dall'assemblea. L'uomo passò tra le capanne, dove le donne che avevano assistito alla sua sconfitta lo derisero con commenti pungenti, e si affrettò a raggiungere il sentiero che si snodava tra le rocce e spuntoni verso la valle sottostante. Non appena ebbe girato la prima curva che lo riparava dalla vista del villaggio, si fermò bruscamente a bocca aperta. Non aveva creduto possibile che uno straniero entrasse nella valle di Kurum senza essere individuato dall'occhio di falco delle sentinelle appostate sulle cime. Eppure, su un masso, accanto al sentiero, c'era un uomo seduto a gambe incrociate, un uomo che portava un abito di pelo di cammello e un turbante verde. Il Wazuli aprì la bocca per gridare e portò la mano all'elsa del coltello. In quello stesso istante, però, i suoi occhi guardarono quelli dello straniero e l'urlo gli morì in gola, mentre la mano si allontanava inerte dalla lama. Rimase immobile come una statua con lo sguardo vitreo. Per qualche minuto non successe niente. Poi l'uomo sul masso tracciò con l'indice un segno misterioso sulla roccia. Il Wazuli non lo vide inserire nulla dentro il cerchio, ma in quell'attimo vi brillò qualcosa. Una sfera nera scintillante che pareva giaietto lucido. L'uomo dal turbante verde la prese e la passò al Wazuli, il quale l'afferrò come una toma. «Portala, Yar'Afzal!» gli disse, e il Wazuli si girò come un burattino e tornò indietro, sorreggendo la sfera nera nella mano tesa. Non si voltò neanche a guardare le donne che lo derisero nuovamente vedendolo tornare al campo. Egli non sembrava udirle. L'uomo sul masso lo seguì con lo sguardo con un sorriso enigmatico. Da dietro il masso spuntò la testa di una ragazza, la quale lo guardò con un misto di ammirazione e di timore che la notte prima non aveva avuto. L'uomo le accarezzò i riccioli neri. «Sei ancora stordita dal volo sul cavallo d'aria per dubitare forse della mia saggezza? Finché Yar'Afzal sarà in vita, Conan sarà al sicuro tra i guerrieri Wazuli. I loro coltelli sono affilati e sono molti. Quello che ho in mente sarà più prudente anche per me, anziché andare lì a ucciderlo per prendere la ragazza. Non c'è bisogno di un mago per predire cosa faranno i Uazuli e cosa farà Conan quando la mia vittima porgerà il globo di Yezud al capo di Kurum. Di schiena, alla capanna, al tempo stesso incredulo e adirato nel veder tornare l'uomo che aveva mandato nella valle, Yaraf Zal si fece largo tra la calca. «Ti avevo ordinato di andare dalle sentinelle! Non è possibile che tu sia già tornato!» L'altro non rispose. Rimase in piedi come un pezzo di legno, fissando il capo con uno sguardo vuoto, il palmo teso con il globo di giaietto. Conan, che si trovava dietro Yaraf Zal, mormorò qualcosa e allungò il braccio per toccare il capo sulla spalla. Ma in quel mentre Yaraf Zal, in un accesso di collera, colpì l'uomo con un pugno e lo fece stramazzare come un bue. Mentre questo cadeva, la sfera nera rotolò ai piedi di Yaraf Zal e il capo, che parve accorgersene per la prima volta, si chinò e la raccolse. Gli uomini che fissavano perplessi il loro compagno esanime videro che il loro capo si chinava, ma non videro che cosa aveva raccolto da terra. Yaraf Zal si rialzò, guardò il globo e fece un movimento per metterselo al cinturone. «Portate questo sciocco alla sua capanna! Ha l'espressione di un mangiatore del loto! Mi ha guardato senza vedermi! Io... Ehi!» Nella mano destra, mentre la spostava verso la cintura, aveva sentito improvvisamente un movimento strano. La voce gli morì in gola e rimase impietrito a guardare nel vuoto. E dentro il pugno destro avvertì un fremito di cambiamento, di movimento e di vita. Tra le dita non aveva più una sfera liscia e splendente e non osava guardare. La lingua gli si era appiccicata contro il palato e non riusciva ad aprire la mano. I suoi guerrieri videro sbalorditi che gli occhi di Yaraf Zal si dilatavano e che la sua faccia diventava bianca. Poi, improvvisamente, dalle sue labbra barbute uscì un urlato di dolore. Il capo traballò e cadde a terra come colpito da un fulmine, con il braccio destro teso in avanti. Giacque a faccia in giù, e tra le dita che si stavano riaprendo strisciò fuori un ragno, un orrendo mostro nero dalle zampe pelose, il cui corpo era lucido come giaietto. Gli uomini urlarono e indietreggiarono di colpo, e la creatura si infilò in una fenditura delle rocce e scomparve. I guerrieri cominciarono a gridare come impazziti, e sulla confusione generale si alzò una voce imperiosa giunta da molto lontano, della quale nessuno conosceva la provenienza. In seguito tutti gli uomini, quelli ancora vivi, negarono di essere stati loro a parlare, ma tutti avevano sentito l'ordine. «Yaraf Zal è morto! Uccidete lo straniero!» Quel grido unì le loro menti sconvolte in una sola idea. Dubbio, sbalordimento e paura scomparvero, spazzati via dalla sete di sangue. Un urlo feroce raggiunse i cieli mentre gli uomini della tribù rispondevano a quel comando. Si lanciarono tutti nello spazio aperto con i mantelli svolazzanti, gli occhi fiammeggianti e i coltelli alzati. La reazione di Conan fu rapida come il loro attacco. Mentre la voce seguitava a ululare, corse alla porta della capanna. Ma gli uomini erano più vicini a lui di quanto lui non fosse vicino alla porta e con un piede ancora sulla soglia dovette voltarsi a parare il colpo di un coltello lungo il braccio. Spaccò il cranio dell'uomo, schivò un altro coltello e trapassò un altro all'addome. Aprì lo stomaco all'aggressore, dopodiché si appoggiò pesantemente contro la porta chiusa spingendola con le spalle. Le punte dei coltelli superarono gli stipiti, arrivandogli all'altezza delle orecchie. Ma finalmente la porta cedette e allora entrò barcollando dentro la stanza. Un guerriero barbuto, lanciandosi contro Conan con tutta la furia mentre questo arretrava, si buttò a testa in giù contro la porta. Conan si abbassò, lo agguantò per i vestiti e lo scagliò lontano. Quindi chiuse la porta in faccia agli altri che volevano entrare inferociti. Sotto quella botta si sentirono scrocchiare le ossa. E un attimo dopo Conan fece scattare i catenacci e si girò con velocità disperata ad affrontare l'uomo caduto in terra, il quale nel frattempo si era risollevato e gli si stava buttando addosso come un pazzo. Yasmina si rannicchiò in un angolo, fissando con orrore i due uomini che lottavano per tutta la stanza, a momenti quasi inciampando su di lei. I lampi e il fragore delle armi riempivano l'ambiente e di fuori la calca spraitava come un branco di lupi, colpendo inutilmente con i coltelli la porta di bronzo e scagliandovi contro grossi sassi. Qualcuno andò a prendere il tronco di un albero e sotto quell'assalto poderoso la porta cominciò a tremare. Yasmina si coprì le orecchie terrorizzata. Furia e violenza dentro, tempestosa frenesia di fuori. Lo stallone sbuffava e nitriva, sferrando calci contro le pareti. Girandosi, colpì con gli zoccoli le sbarre del recinto, nel momento esatto in cui l'uomo della tribù, indietreggiando di fronte ai colpi micidiali di Conan, vi andava a finire contro. La sua spina dorsale si spaccò in tre punti come un ramo marcio, ed egli venne gettato violentemente addosso al cimmero, causando la caduta di tutti e due sul pavimento. Yasmina urlò e corse da loro, ai suoi occhi sconvolti pareva che fossero morti entrambi. Li raggiunse proprio mentre Conan si liberava del peso dell'altro e si rimetteva in piedi. Lo afferrò per un braccio, tremando dalla testa ai piedi. Oh, sei vivo! Credevo che fossi morto! Conan lanciò un'occhiata rapida alla sua faccia pallida protesa all'insù e ai suoi occhi scuri sgranati dalla paura. E perché tremi? Che ti importa se sono morto o vivo? Ritrovando per un attimo l'antico contegno, Yasmina si mise sulla difensiva in un pietoso tentativo di recitare la parte della Devi. Meglio te che quelle belve urlanti là fuori, rispose indicando la porta che ormai cominciava a cedere. Ah, quella non terrà ancora per molto, borbottò Conan. Poi si voltò e si diresse velocemente verso lo stallone. Yasmina si torse le mani e trattenne il respiro quando lo vide divellare le ultime sbarre della stalla ed entrare dalla bestia inferocita. Lo stallone si impennò nitrendo spaventosamente, con gli occhi e i denti lampeggianti e le orecchie dritte. Ma Conan, saltandogli in groppa, lo afferrò per la criniera con un dispiego di pura forza che sembrava impossibile, costringendo in tal modo l'animale a posare a terra le zampe. Il destriero sbuffò e tremò. Tuttavia rimase fermo mentre l'uomo lo imbrigliava e gli metteva la sella tra punta d'oro con le larghe staffe d'argento. Facendo girare il cavallo, Conan chiamò in fretta Yasmina e la ragazza corse da lui, camminando nervosamente vicino alle zampe dell'animale. Conan si mise ad armeggiare con il muro di pietra, parlando velocemente mentre lavorava. «È una porta segreta qui nel muro che nemmeno i Wazuli conoscono. Yarafzal me l'ha mostrato una volta che era ubriaco. Arriva dritta all'imboccatura della gola dietro la capanna. Ah!» Mentre spingeva una protuberanza che sembrava naturale, un'intera porzione di muro scivolò lateralmente sui cardini di ferro ben oleati. Scrutando dentro, la ragazza vide uno stretto passaggio ricavato nella viva roccia a pochi piedi dal muro posteriore della capanna. Poi Conan saltò in sella e la sollevò mettendosela davanti. Alle loro spalle la grossa porta gemette come una cosa viva e si schiantò. E allora un urlo raggiunse il soffitto mentre si riversava dentro una marea di facce barbute e di mani irsute con i coltelli levati. Poi il possente stallone si infilò nel muro come un giavellotto lanciato da una catapulta e passò nella strettoia ad andatura impetuosa schiumando bava. Quella mossa fu una sorpresa assoluta per i Wazuli e lo fu anche per quelli nascosti dentro la gola. Accadde tutto così in fretta, la carica d'uragano del possente cavallo, che un uomo dal turbante verde non riuscì a levarsi dalla strada. Finì sotto gli zoccoli scalpitanti dell'animale e ci fu una ragazza che urlò. Conan la intravide brevemente mentre si allontanavano al galoppo. Una ragazza magra, bruna, con i pantaloni di seta e una fascia ricamata di gioielli che si appiattiva contro le rocce. Poi il destriero nero e i suoi cavalieri scomparvero nella gola come la spuma sotto l'infuriare di una tempesta. E gli uomini che uscivano barcollando dal muro dietro loro trovarono colui che aveva tramutato le loro grida assetate di sangue in urla di terrore e di morte. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Pronto, Ufficio Soluzioni Esagerate. Buongiorno, sono Marco Quercia, falegname. Vi contatto perché le tasse mi martellano. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni pasto ticket restaurant Edred, 100% deducibili per aziende e semplici da attivare. E poi li usi in tutta Italia, anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente, Edred. Sei. E adesso dove si va? Yasmina cercava di restare diritta sulla sella ondeggiante, aggrappandosi al proprio rapitore. Era consapevole che avrebbe dovuto provare vergogna del fatto di non trovare niente sgradevole il contatto della sua carne muscolosa sotto le dita. Nell'Afghulistan, rispose lui. È una strada pericolosa, ma lo stallone ci porterà tranquillamente, sempre che non troviamo qualcuno dei tuoi amici o dei miei nemici della tribù. Adesso che Yarafzal è morto, quei maledetti Wazuli ci staranno alle calcagna. Mi sorprende di non vederli ancora alle nostre spalle. Chi era l'uomo che hai travolto con il cavallo? Domandò lei. Non lo so, mai visto prima. Non è un Guli, questo è certo. Che diavolo facesse lì non lo so proprio. C'era anche una ragazza con lui. Sì. Non capisco. Quella ragazza era la mia serva, Gitara. Credi che fosse venuta per aiutarmi? Che l'uomo fosse un suo amico. Se è così, i Wazuli li avranno catturati entrambi. Yasmina si rabbuiò. In tutti i modi, non possiamo farci niente. Se torniamo indietro ci faranno la pelle a tutti e due. Non capisco come una ragazza come quella sia riuscita ad arrivare fin quassù sulle montagne con un uomo solo, e per di più uno studioso a giudicare dall'aspetto. C'è qualcosa di maledettamente diabolico in tutta la faccenda. Quel tizio che Yarafzal ha malmenato e poi scacciato si muoveva come un sonnambulo. Ho visto i sacerdoti di Zamora compiere i loro riti abominevoli nei loro templi proibiti e le loro vittime avevano lo stesso sguardo di quell'uomo. I sacerdoti lo guardavano negli occhi e mormoravano degli incantesimi e quelli cominciavano a camminare come morti, con gli occhi vitrei e facevano ciò che gli veniva ordinato. E poi ho visto che cosa teneva in mano quell'uomo. La cosa che Yarafzal ha raccolto. Somigliava a una specie di grossa perla di giaietto nero, come quelle che portano le sacerdotesse di Yesud quando danzano davanti al grosso ragno di pietra che adorano come loro dio. Yarafzal la teneva in mano e non ha raccolto da terra nient'altro. Però quando è caduto morto, un ragno tale quale al dio Yesud, solo più piccolo, è uscito dalle sue dita. E poi, mentre i Wazuli erano incerti sul da farsi, si è sentita una voce che ha ordinato loro di uccidermi. E so che quella voce non apparteneva a nessuno dei guerrieri, e neppure alle donne che guardavano dalle capanne. Sembrava venire dall'alto. Yasmina non rispose. Guardò gli austeri profili delle montagne che li circondavano e tremò. La sua anima si ritraeva dalla loro spettrale brutalità. Quella era una terra nuda, tetra, dove poteva accadere di tutto. Tradizioni secolari le conferivano un raccapricciante orrore per chiunque fosse nato al sole caldo delle pianure meridionali. Il sole era alto e picchiava ferocemente, eppure il vento che soffiava raffiche sembrava spazzare dirupi di ghiaccio. Una volta udì uno strano fruscio sopra di loro, che non era lo stormire del vento, e dal modo in cui Conan guardò in alto, capì che neanche lui sembrava aver sentito un rumore naturale. Le parve che una striscia del gelido cielo azzurro si oscurasse per un attimo, come se qualche oggetto invisibile si fosse frapposto tra di loro, ma non poteva esserne sicura. Non disse nulla, ma Conan sciolse il fodero del pugnale. Stavano seguendo una strada appena sbozzata che si infilava tra i crepacci talmente in basso che la luce del sole non colpiva mai il fondo, per poi risalire ripidi pendii resi pericolosi dagli scisti sparsi e costeggiare rocce affilate come coltelli dove risuonavano echi misteriosi. Il sole aveva superato lo zenith quando attraversarono una stradina che si snodava tra i burroni. Conan fece deviare il cavallo e prese a sud, andando quasi ad angolo retto rispetto alla direzione che avevano seguito precedentemente. C'è un villaggio Galzai alla fine di questo sentiero. Le loro donne lo percorrono per andare al pozzo a prendere l'acqua. ti servono dei vestiti nuovi. Guardando i suoi abiti impolverati, Yasmina fu d'accordo con lui. Le sue pantofoline ricamate erano lacere e l'abito e la sottoveste di seta pendevano a brandelli da non tenersi quasi più insieme. Quell'abbigliamento consono alle strade di Peshkauri non era esattamente quello adatto alle strade di montagna degli Himeliani. Arrivati a un crocicchio, Conan smontò da cavallo, aiutò Yasmina a scendere e si mise in attesa. Dopo un po' annuì, anche se la ragazza non aveva sentito niente. «Sta arrivando una donna», disse. Presa improvvisamente dal panico, Yasmina gli afferrò un braccio. «Non vorrai ucciderla?» «Solitamente io non uccido le donne, anche se alcune di queste montanare sono più feroci delle lupe. No, per Crom pagherò i suoi vestiti. Basteranno queste?» Le mostrò una manciata di monete d'oro e si rimise in tasca le più piccole. Yasmina annuì, molto sollevata. Forse per gli uomini era naturale uccidere e morire, ma la sua carne si ribellava al solo pensiero di assistere all'uccisione di una donna. In quel momento apparve al crocicchio una donna. Era una ragazza Galzai, alta e snella, diritta come una giovane puledra, sotto il peso di una grossa zucca vuota. Quando li vide, ella si fermò bruscamente e la zucca le cadde di mano. Inizialmente ebbe l'impulso di correre, ma poi si rese conto che Conan le era troppo vicino per poter scappare e allora rimase ferma, fissandoli con un misto di curiosità e di paura. Conan le mostrò una moneta d'oro. «Se darai a questa donna i tuoi vestiti, io ti darò questo denaro!» La risposta fu fulminea. La ragazza gli fece un largo sorriso di contentezza e di sorpresa e con il tipico disprezzo del pudore delle montanare si levò immediatamente il corsetto ricamato senza maniche, si calò i pantaloni larghi e se li tolse, si slacciò la camicia a maniche larghe e scalciò i sandali. Facendone poi un mucchio, lo porse a Conan, il quale lo passò alla stupefatta Devi. «Mettiti dietro quella roccia e infilati questi. Raccogli i tuoi vestiti e portameli quando hai finito». La montanara protestò richiedendo il denaro e tendendo la mano avidamente. Conan le lanciò la moneta e la ragazza la prese, la morse e se la infilò nei capelli. Si chinò, raccolse la sua zucca e si allontanò per il sentiero, leggera nello spirito come lo era nel corpo. Conan attese con una certa impazienza che la Devi, per la prima volta in vita sua, si vestisse da sé. Quando Yasmina uscì finalmente da dietro la roccia, il cimmero si lasciò sfuggire un'imprecazione stupita e lei provò un'impetuosa emozione nel cogliere l'aperta ammirazione che ardeva in quei fieri occhi azzurri. Sentiva vergogna e imbarazzo, eppure al tempo stesso la sua vanità veniva gratificata come non le era mai accaduto, e quando incrociò lo sguardo eloquente dei suoi occhi ebbe tutto un fremito. Conan le posò una mano pesante sulle spalle e la fece girare, osservandola avidamente da ogni lato. «Per Crom, con quelle vesti mistiche e velate eri gelida e irraggiungibile come una stella. Adesso invece sei una donna fatta di carne e di sangue. Sei andata dietro quella roccia come la Devi dei Vendia e ne sei uscita come una montanara, ma centinaia di volte più bella di qualunque ragazza dello Zaibar. Prima eri una dea, ma adesso sei vera». Le dette una pacca sonora sui glutei, ma lei, capendo che era soltanto un'altra dimostrazione della sua ammirazione, non se ne sentì offesa. Era davvero come se il cambio d'abiti le avesse cambiato anche la personalità. Sentimenti ed emozioni che fino ad allora aveva represso, adesso le scoppiavano dentro, come se le vesti regali delle quali si era liberata fossero stati ceppi e inibizioni. Ma Conan, malgrado la nuova ammirazione che aveva per lei, non scordò il pericolo che li circondava. Più si allontanavano dalla regione dello Zaibar e più diminuivano le possibilità di incontrare i soldati Xatria. Per tutta la fuga, tuttavia, aveva udito rumori che gli dicevano che i vendicativi Wazuli di Kurum erano alle loro costole. Issando la Devi sulla sella, le montò dietro e diresse nuovamente lo stallone verso ovest. Lanciò dietro una roccia il fagotto di vestiti che la ragazza gli aveva dato, in modo che cadessero in una gola profonda. «Perché lo hai fatto? Perché non li hai dati alla ragazza?» domandò lei. I cavalieri di Peshkauri stanno setacciando queste montagne. Avranno teso trappole e agguati a ogni angolo e a titolo di rappresaglia distruggeranno ogni villaggio che incontreranno. Potrebbero dirigersi a ovest in ogni momento. E se trovassero una ragazza con i tuoi vestiti, la torturerebbero per farla parlare e le sue informazioni potrebbero metterli sulla pista giusta. Che cosa farà? Domandò Yasmina. Quella tornerà al villaggio e dirà alla sua gente che uno straniero l'ha aggredita. Li metterà sulle nostre tracce, naturalmente. Ma prima dovrà andare a prendere l'acqua, altrimenti la frustaranno a sangue. E questo ci darà parecchio vantaggio. Non ci prenderanno mai. Prima di notte riusciremo ad attraversare i confini degli Afghuli. Non c'è traccia di abitazioni umane da queste parti. Anche se ci troviamo sugli Himeliani, questa regione mi sembra particolarmente desolata. Non vediamo una pista da quando abbiamo lasciato il sentiero dove abbiamo incontrato la Galzai. In risposta, Conan indicò col dito verso nord-ovest, dove lei intravide un picco in una gola tra le rocce. Lo Himsha! Le tribù costruiscono i loro villaggi il più lontano possibile da quella montagna. Yasmina ascoltò immediatamente interessata. Lo Himsha! La montagna dei veggenti neri! Così dicono. Io non mi ero mai avvicinato tanto. Ho girato a nord per evitare i soldati Xatria che staranno setacciando le montagne. La strada regolare da Kurum all'Afghulistan si trova più a sud. Questa è un'antica pista e viene usata di rado. Yasmina fissò intensamente il picco lontano e piantò le unghie nel palmo delle belle mani. Quanto ci vorrebbe per raggiungere lo Himsha da qui? Tutta la giornata e tutta la notte. Ma perché vorresti andare lì? Per Krom non è il posto adatto ad un essere normale, a quel che dicono i montanari almeno. Perché non si uniscono e non distruggono i diavoli che ci dimorano? Eliminare dei maghi con la spada? E poi non interferiscono mai con la gente, a meno che non sia la gente a interferire con loro. Io non ne ho mai visto uno, anche se ho parlato con uomini che giurano di averli visti. Dicono di aver scorto qualcuno aggirarsi tra le rocce della torre all'alba, oppure al tramonto. Uomini alti e silenziosi, vestiti di nero. Tu avresti paura ad attaccarli? Io? Decidessero di prendersela con me, si tratterebbe della mia vita contro la loro. Ma io non ho niente a che spartire con loro. Sono venuto su queste montagne per mettermi alla testa di un pugno di esseri umani e non per fare guerra ai maghi. Yasmina non rispose subito. Guardò il picco come se fosse un nemico umano e sentì gonfiarsi nuovamente il petto di rabbia e di odio. E nel suo cuore cominciò a prender forma anche un altro sentimento. Aveva cercato di mettere contro i signori di Himsha l'uomo che adesso la portava tra le sue braccia. Forse c'era un altro modo, oltre al piano che aveva ordito per realizzare i suoi fini. Non poteva certo fraintendere lo sguardo che cominciava ad apparire negli occhi selvaggi di questo uomo quando si posavano su di lei. Cadevano interi regni quando le mani bianche affusolate di una donna prendevano le redini del destino. Improvvisamente si irrigidì e indicò col dito. Guarda! Appena visibile sopra il picco lontano pendeva una strana nuvola. Era di un rosso cremisi glaciale e venata d'oro scintillante. La nuvola si muoveva, roteava e mentre mulinava si contraeva. Poi si assottigliò come una candela che brillava al sole. Improvvisamente si staccò dal picco nevoso, fluttuò nel vuoto come una piuma dalle tinte luminose e divenne invisibile nel cielo ceruleo. Cosa sarà stato? Domandò la ragazza inquieta, mentre si udiva rombare la montagna lontana. Il fenomeno, pur nella sua bellezza, l'aveva allarmata. I montanari lo chiamano il tappeto di Himsha, anche se non so cosa voglia dire. Li ho visti correre a centinaia come se avessero il diavolo alle calcagna e nascondersi nelle grotte e nelle cavità delle rocce, perché avevano visto staccarsi dal picco quella nuvola rossa. Superando una strettoia affilata come un coltello, si ritrovarono su un... Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. ufficio soluzioni esagerate. Buongiorno, sono Marco Quercia, falegname. Vi contatto perché le tasse mi martellano. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni pasto ticket restaurant Edred, 100% deducibili per aziende e semplici da attivare. E poi li usi in tutta Italia, anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente, Edred. Ampio costone, fiancheggiato da una serie di balze frastagliate da una parte e da uno spaventoso precipizio dall'altra. Il sentiero seguiva il costone, passava intorno ad uno sperone e riappariva a intervalli giù in basso, obbligandoli a una faticosa discesa. Non appena messo piede sul costone, lo stallone nero si fermò e tremò, recalcitrando come se si trovasse davanti a una barriera invisibile. Conan imprecò e smontò da cavallo, posando a terra anche Yasmina. Andò avanti con la mano tesa, come se si aspettasse di incontrare resistenza. Ma non c'erano ostacoli, sebbene, quando provò a incitare il cavallo, l'animale nitrisse e indietreggiasse. Poi Yasmina gridò e Conan si girò di scatto, con il coltello pronto. Nessuno dei due l'aveva visto arrivare, eppure era lì, a braccia conserte, un uomo con un mantello di lana di cammello e un turbante verde. Conan grugnì per lo stupore nel riconoscere l'uomo che lo stallone aveva travolto nella gola vicino al villaggio Wazuli. «Chi diavolo sei?» gli chiese. L'uomo non rispose. Conan si accorse che aveva lo sguardo vitreo e stranamente luminoso e quegli occhi lo attiravano come una calamita. La magia di Kemsa si basava sull'ipnotismo, come avviene quasi sempre nella magia orientale. La strada per l'ipnosi era stata preparata da innumerevoli centinaia di generazioni, vissute e morte nella ferma convinzione della realtà e del potere dell'ipnosi, creando, con la pratica e con l'ideologia di massa, un'atmosfera generale, pur se intangibile, contro la quale l'individuo, radicato nelle tradizioni della sua terra, si ritrovava inerme. Ma Conan non era un figlio dell'Est. Le tradizioni orientali non avevano alcun significato per un barbaro come lui. Lui era il prodotto di un'atmosfera completamente diversa. L'ipnosi non era neanche un mito in Cimmeria. Le caratteristiche ereditarie che predisponevano un orientale alla sottomissione e al mesmerismo non gli appartenevano. Sapeva bene che cosa stava cercando di fargli Kemsa, ma la forza che l'arcano potere dell'uomo esercitava su di lui era solo un debole impulso, un incitamento del quale poteva liberarsi come ci si leva una ragnatela da un vestito. Conscio dell'ostilità e della magia nera che saturavano l'aria, sfilò dal cinturone il suo lungo coltello e attaccò veloce come un leone di montagna. Ma l'ipnosi non era l'unica risorsa magica di Kemsa. Yasmina, che stava assistendo alla scena, non riuscì a capire con quale mossa o quale illusione l'uomo dal turbante verde schivasse il terribile affondo di Conan. La lama si fermò a mezz'aria e a Yasmina parve che Kemsa avesse semplicemente sfiorato il collo taurino di Conan con il palmo aperto. Il cimmero stramazzò come un bue. Conan, però, non era morto. Interrompendo la caduta con la mano sinistra, colpì Kemsa alle gambe nel momento stesso in cui andava a terra. E il Raksha evitò il fendente tagliente come una falce, soltanto grazie a un salto all'indietro non proprio degno di un mago. Poi Yasmina urlò forte, riconoscendo Gitara nella donna che usciva dalle rocce e correva dall'uomo. Il saluto le morì in gola, quando la Devi vide l'espressione malevola del bel viso della ragazza. Conan si stava rialzando lentamente, ancora stordito dalla crudele maestria del colpo che assestato con delle arti già dimenticate dagli uomini prima dello sprofondamento di Atlantide avrebbe spezzato come un fuscello il collo di un uomo normale. Kemsa lo guardò incuriosito e leggermente irritato. Il Raksha aveva scoperto tutta la forza del proprio potere quando aveva tenuto a bada i Wazuli inferociti nella gola nei pressi del villaggio di Kurum. Ma la resistenza del cimmero aveva scosso la nuova fiducia che nutriva in se stesso. La magia fiorisce sul successo e non sul fallimento. Kemsa fece un passo avanti con la mano sollevata, poi si fermò come pietrificato, reclinò la testa e spalancò gli occhi. Suo malgrado Conan seguì il suo sguardo e lo stesso fecero le donne, sia la ragazza che si nascondeva dietro lo stallone tremante, sia la ragazza al fianco di Kemsa. Dalle falde della montagna, simile a un turbine di polvere luccicante sollevato dal vento, stava arrivando una nuvola conica cremisi. La faccia di Kemsa divenne cinerea. La sua mano, che era rimasta sollevata, prese a tremare e poi scivolò lungo il fianco. La ragazza che gli era accanto, avvertendo il cambiamento che avveniva in lui, lo guardò con aria interrogativa. La nuvola cremisi si staccò dalla montagna e scese giù, disegnando una lunga linea ad arco. Toccò il costone, portandosi tra Conan e Kemsa, e il Raksha arretrò con un grido soffocato. Quindi indietreggiò, spingendo anche Gitara con le mani. La nuvola cremisi rimase per un attimo in equilibrio come una trottola, roteando in un vortice scintillante lì sul posto. Poi, senza preavviso, scomparve, svanendo come una bolla di sapone. Sul costone c'erano ora 4 uomini. Miracoloso, incredibile, impossibile, ma vero. Non erano né spiriti né fantasmi. Erano 4 uomini alti, con le teste rasate da avvoltoio e tuniche nere lunghe fino ai piedi. Le mani erano nascoste dalle maniche. Rimasero in silenzio, annuendo all'unisono con le teste glabre. Stavano fronteggiando Kemsa, ma alle loro spalle Conan sentiva il sangue ghiacciarglisi nelle vene. Rialzandosi, barcollò all'indietro, finché sentì i fianchi dello stallone tremante contro la schiena e la Devi si infilò al riparo del suo braccio. Non venne detta parola. Il silenzio pendeva come un sudario. Tutti e 4 gli uomini nelle tuniche nere guardavano Kemsa. Le loro facce da avvoltoio erano immobili, i loro occhi assorti e contemplativi. Ma Kemsa tremava come se avesse i brividi. Si teneva aggrappato con i piedi alla roccia, tendendo i polpacci come se stesse sostenendo una lotta. La sua faccia scura grondava di sudore. Nella mano destra stringeva qualcosa che teneva nascosto sotto la tunica marrone, con una tale disperazione che le nocche delle dita erano diventate bianche. Aveva posato la mano sinistra sulle spalle di Gitara e la stringeva con il terrore di chi sta affogando. La ragazza non si ribellava né si lamentava, anche se le dita dell'uomo le straziavano la carne come artigli. Conan aveva assistito a centinaia di migliaia di battaglie nella sua vita avventurosa, ma nessuna era paragonabile a quella, nella quale 4 volontà diaboliche cercavano di sconfiggere una quinta più debole, ma parimenti micidiale. Poteva soltanto intuire la natura nefanda di quella lotta mostruosa. Con la schiena contro la roccia, messo alle strette dai suoi antichi padroni, Kemsa lottava per la vita con tutto il potere del male, con ogni conoscenza spaventosa che questi gli avevano comunicato nei lunghi anni di nepotismo e vassallaggio trascorsi con loro. Kemsa scoprì di essere più forte di quanto immaginasse e che il libero uso dei poteri a scopi personali aveva liberato in lui energie insospettate, di forza, senza contare le nuove energie che gli davano la paura e la disperazione. Vacillava sotto la carica spietata di quegli occhi ipnotici, ma non arretrava. La sua faccia era contorta in una smorfia bestiale di dolore e pareva che gli stessero torcendo le gambe con la ruota della tortura. Era una guerra di spiriti, di cervelli terrificanti pervasi di conoscenze proibite agli uomini da 1 milione di anni, di menti che avevano scandagliato gli abissi ed esplorato le arcane stelle dove si generano le ombre. Yasmina lo capiva meglio di Conan e intuiva anche perché Kemsa poteva resistere all'assalto congiunto di quelle 4 volontà diaboliche che sarebbero riuscite a disintegrare la roccia stessa sulla quale si trovava l'avversario. Il motivo era la ragazza alla quale si aggrappava con la forza della disperazione. Questa era come un'ancora per la sua anima vacillante, sommersa da quelle ondate di emanazioni psichiche. La sua debolezza adesso era la sua forza. Il suo amore per la ragazza, per quanto violento e malvagio, era pur sempre un legame che lo teneva ancorato al resto dell'umanità, fornendo un punto di appiglio alla sua mente, una catena che i suoi nemici non umani non potevano spezzare, o almeno non attraverso Kemsa medesimo. E i 4 se ne accorsero prima di lui. e uno di loro spostò lo sguardo da Raksha a Jitara. Con lei non c'era battaglia. La ragazza si accartocciò e avvizzì come una foglia rimasta senza acqua. Seguendo un impulso irresistibile, la donna si strappò dalle braccia del suo amante prima che questi si rendesse conto di cosa stesse accadendo. Poi successe una cosa spaventosa. La ragazza cominciò a indietreggiare verso il precipizio, con la faccia rivolta ai suoi torturatori, gli occhi spalancati e inespressivi come un vetro scuro, dietro al quale è stata appena spenta una lampada. Kemsa gemette e barcollò verso di lei, cadendo nella trappola che gli avevano teso. Una mente divisa non può sostenere una battaglia impari. Venne sconfitto, ridotto a un fuscello nelle loro mani. La ragazza seguitò ad indietreggiare, camminando come un automa, e Kemsa le andò dietro come un ubriaco, protendendo vanamente le mani, gemendo di dolore e avanzando con una pesantezza mortale. Arrivata sull'orlo del baratro, la ragazza si fermò. Rimase rigida con i calcagni piantati sul ciglio dell'orrido ed egli cadde in ginocchio e strisciò piangendo verso di lei, allungando le mani per prenderla, per impedirle di andare verso la distruzione. E un attimo prima che le sue dita intorpidite la afferrassero, uno dei maghi rise come lo squillo improvviso di una campana di bronzo dell'inferno. La ragazza vacillò e all'apice della crudeltà più raffinata, nel suo sguardo tornarono la ragione e la coscienza, travolgendola dal terrore. Strillò, tentò di afferrare convulsamente le mani tatuate del suo amante e poi, incapace di salvarsi, precipitò giù con un urlo straziante. Kemsa si catapultò sul baratro e guardò giù disfatto, mormorando qualcosa tra sé e sé. Poi si voltò e fissò per un lungo minuto i suoi torturatori, i cui occhi spalancati non avevano nulla di umano. Quindi con un urlo che fece quasi scoppiare le rocce, si rimise in piedi e si lanciò forsennatamente contro di loro con un coltello in mano. Uno dei Raksha venne avanti e batté il piede per terra, e in quel mentre si udì un rombo che crebbe rapidamente in un boato. Nel punto in cui aveva battuto il piede si aprì una crepa nella roccia che si allargò istantaneamente. E poi con uno schianto assordante un'intera sezione del costone cedette. Si vide Kemsa per l'ultima volta con le braccia brancolanti nel vuoto. E poi il mago scomparve sommerso dalla valanga che lo trascinava verso l'abisso. I quattro guardarono meditabondi la roccia spaccata che costituiva adesso il nuovo orlo del precipizio. Quindi si girarono improvvisamente. Conan, che era caduto a terra per via dello scotimento della montagna, si stava rialzando, tenendo Yasmina tra le braccia. Sembrava si muovesse con la stessa lentezza con cui stava funzionando il suo cervello. Era confuso, istupidito. Capiva che doveva assolutamente issare la Devi sullo stallone nero e fuggire al galoppo come il vento. Ma una lentezza inspiegabile gli rallentava ogni pensiero e ogni azione. E adesso i maghi si erano concentrati su di lui. Con orrore vide che sollevavano le braccia e cominciavano a scomparire, diventando eterei e nebulosi, mentre un fumo violaceo saliva dai loro piedi e vorticava verso l'alto avvolgendoli. Vennero nascosti da una nuvola velocissima e poi si accorse che anche lui veniva avvolto da una nebbia rossa accecante. Udì Yasmina strillare e lo stallone gridò come una donna addolorata. La Devi gli venne strappata dalle braccia e mentre sferrava colpi alla cieca con il coltello, una spinta tremenda come una raffica violenta di vento lo mandò a sbattere contro una roccia. Nello stordimento provocato dall'urto, vide una nuvola conica rosso cremisi che si innalzava mulinando sulle montagne. Yasmina era sparita e insieme a lei i quattro uomini in nero. Sulla balza rocciosa, insieme a lui, era rimasto soltanto lo stallone terrorizzato. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Sette. Come si dileguano le nebbie al forte vento, le ragnatele si dileguarono dal cervello di Conan. Con un'imprecazione balzò in sella e lo stallone sollevò le zampe e nitrì. Osservò i dirupi, rifletté. Poi riprese il sentiero nella medesima direzione in cui stava andando prima di essere fermato da Kemsa. Ma adesso non cavalcava più ad andatura lenta. Lanciò lo stallone a briglia sciolta e l'animale schizzò come un fulmine, come se volesse scaricare la tensione con una corsa violenta. Volarono a folle velocità sopra il costone e poi scesero giù per il viottolo che si infilava nel lungo pendio. La strada seguiva una falda rocciosa, snodandosi interminabile un piano dopo l'altro per una scarpata striata. E per un attimo giù in fondo, Conan scorse il blocco che si era staccato dal costone. Una pila poderosa di pietra rotta e massi accumulatesi ai piedi di una roccia gigantesca. La vallata era ancora lontana quando raggiunse un alto rilievo che si allungava dalla scarpata come se fosse una strada rialzata naturale. Lo percorse avanzando sul precipizio che l'avrebbe condotto sull'altro versante della montagna. Davanti a lui riusciva a vedere il percorso che doveva fare, il quale giù in fondo scendeva bruscamente in basso e descriveva una curva a ferro di cavallo tornando verso il letto del fiume alla sua sinistra. Maledisse la necessità di dover percorrere tutte quelle miglia, ma purtroppo era l'unica strada possibile. Tentare di scendere direttamente a valle sarebbe stato tentare l'impossibile. Soltanto un uccello poteva arrivare al letto del fiume con il collo sano. Così spronò lo stallone che cominciava a stancarsi. Quando udì un rumore di zoccoli da basso. Tirando le redini e sporgendosi dalla roccia, scandagliò con lo sguardo il letto secco del fiume che si snodava ai piedi del monte. Nell'insenatura vide un gruppo variegato di gente a cavallo, uomini barbuti in sella, cavalli semiselvaggi. In 500 erano e armati fino ai denti. Conan si mise a gridare, sporgendosi sul baratro a 300 piedi di altezza. All'udire il suo grido, i cavalieri arrestarono i cavalli e 500 facce barbute si sollevarono verso di lui. Nel canyon risuonò un clamoroso boato. Conan non sprecò le parole. «Stavo andando a Gor! Non speravo di incontrare voi cani bastardi lungo la strada! Seguitemi se i vostri ronzini riescono a starmi dietro! Sto andando a Imsha e... Traditore!» Quel grido fu come una sferzata d'acqua gelida sulla faccia. «Cosa?» Li guardò, ammutolito. Vide occhi selvaggi che lo fissavano con odio, facce infuriate, mani che brandivano la spada. «Traditore! Dove sono i 7 capi tribù tenuti prigionieri a Peshkauri?» «Beh, nella prigione del governatore, suppongo!» Gli rispose un grido assetato di sangue uscito da centinaia di gole, con uno sbattito d'armi così fragoroso da non fargli capire che cosa dicevano. Conan superò lo strepito con un urlo taurino ed ululò. «Che razza di storia è questa? Che parli uno solo di voi, così potrò capire che cosa intendete dire!» Un vecchio capo tribù scheletrico si assunse il compito. Scosse il suo tulwar verso Conan come preambolo e poi gli gridò in tono d'accusa. «Tu non ci permetteresti di assalire Peshkauri per liberare i nostri fratelli?» «Certo che no, pazzi! Anche se riuscirete a far breccia nelle mura, il che è davvero improbabile, impiccherebbero i prigionieri prima di poterli liberare!» «E tu sei andato da solo a trattare con il governatore!» «Ebbene!» «Dove sono i 7 capi? Dove sono? Sono morti!» «Cosa?» Conan quasi cadde da cavallo dalla sorpresa. «Sì, sono morti!» Il vecchio capo brandì le armi e riprese la parola. «E sono stati impiccati! Un Wazuli che era in un'altra cella li ha visti morire! Il governatore ha mandato un mago a ucciderli con la stregoneria!» «Questa è una menzogna! Il governatore non oserebbe farlo! L'altra notte ho parlato proprio con lui!» Questa missione fu poco felice, perché un grido d'odio e di accusa scosse i cieli. «Certo! Sei andato da lui da solo per tradirci! Non è una menzogna! Il Wazuli è fuggito passando per la porta che il mago ha scardinato per entrare e ha raccontato tutta la storia ai nostri esploratori che lo hanno incontrato sullo Zaibar! Li avevamo mandati a cercarti, vedendo che tu non tornavi! Quando hanno sentito il racconto del Wazuli, sono tornati di corsa Gor e abbiamo sellato i nostri destrieri e impugnato le nostre spade!» «E che cosa pensate di fare, pazzi?» «Vendicare i nostri fratelli! Morte agli Xatria! Uccidiamolo, fratelli! È un traditore!» Cominciarono a piovergli intorno le loro frecce. Conan si sollevò sulle staffe cercando di farsi sentire sopra lo strepito. Poi, con un ruggito che era un misto di rabbia, di sfida e di disprezzo, girò il cavallo e tornò sul sentiero. Gli afghuli da basso gli si lanciarono dietro urlando tutta la loro rabbia, troppo inferociti per ricordare che l'unico modo per raggiungere la vetta dove si trovava Conan era attraversare il letto del fiume nell'altra direzione, seguire il gomito e prendere il sentiero che si inerpicava su per le rocce. Quando se ne ricordarono, il loro capo ripudiato aveva quasi raggiunto il punto in cui il rilievo si riuniva alla scarpata. Una volta arrivato là, Conan non riprese il sentiero dal quale era disceso, ma ne seguì un altro appena abbozzato, dove lo stallone incespicava. Non era andato molto lontano, quando il cavallo si mise a sbuffare e arretrò dinanzi a qualcosa che ingombrava la strada. Conan guardò e vide un mucchietto d'ossa rotte e di sangue sparso, i resti di un uomo ancora vivo. Solo gli dei dell'oscurità che governano i foschi destini dei maghi sanno come Khemsa fosse riuscito a trascinare il suo corpo maciullato lontano da quell'orrido tumulo di pietre cadute e a risalire la pendenza che portava al sentiero. Spinto da un'oscura ragione, Conan smontò da cavallo e si mise a fissare quella forma orripilante, sapendo di avere di fronte un avvenimento prodigioso contro le leggi della natura. Il Raksha sollevò la testa sanguinante e i suoi occhi misteriosi, velati dal dolore e dall'avvicinarsi della morte, riconobbero Conan. «Dove sono?» Era un gracidio gracchiante che non somigliava neanche lontanamente a una voce umana. «Sono tornati al loro maledetto castello sullo Imsha! Ci sono presi la Devi!» «Ci andrò! Li inseguirò! Hanno ucciso Jitara! Li ucciderò tutti! Gli accoliti! I quattro del cerchio nero! Il maestro in persona! Li ucciderò! Li ucciderò tutti!» E Khemsa tentò di trascinare il suo corpo mutilato sulla roccia, ma neppure la sua indomabile volontà poteva animare ulteriormente quell'ammasso di sangue, le cui ossa maciullate erano tenute ancora insieme soltanto dai muscoli e dai nervi strappati. «Seguili!» gracchiò Khemsa con la bava rossa di sangue alla bocca. «Seguili!» «Sto andando da loro! Stavo andando a radunare i miei afghuli, ma quelli mi si sono rivoltati tutti contro! Andrò allo Yimsha da solo! Mi riprenderò la Devi a costo di fare a pezzi quella maledetta montagna con le mie stesse mani! Non credevo che il governatore avesse il coraggio di uccidere i miei capi tribù, dal momento che la Devi era in mano mia! Ma evidentemente mi sbagliavo! Mi prenderò la sua testa per quello che ha fatto! Adesso la Devi non è più il mio ostaggio, ma... Che Izil li maledica! Va! Io, Khemsa, sto morendo! Aspetta! Prendi la mia cintura!» Con la mano mutilata cercò di arrivare ai vestiti in brandelli e Conan, intuendo che cosa voleva, si chinò e prese dal suo busto Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. E scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Sanguinolento, una strana cintura. Segui la vena d'oro attraverso l'abisso. Mettiti la cintura. Me l'ha data un sacerdote della Stigia. ti aiuterà, anche se alla fine mi ha abbandonato. Rompi il globo di cristallo con le 4 melagrane d'oro. Stai attento alle trasformazioni del maestro. Io sto per raggiungere la mia gitara che mi aspetta all'inferno. Ai, Yaskelos, Yar! E così Kemsa morì. Conan guardò la cintura. Il pelo di cui era fatta non era crine di cavallo. Si convinse che erano le trecce nere di una donna. Incastonate nelle maglie c'erano delle gemme che non aveva mai visto. La fibbia stessa aveva una forma strana, con una testa d'oro di serpente piatta a forma di cuneo, con delle scaglie lavorate con una tecnica sconosciuta. Non appena l'impugnò, venne preso da un forte tremito e si voltò per gettarla nel precipizio. Ma poi esitò e alla fine se l'allacciò alla vita sotto il cinturone di Bakariot. Quindi rimontò a cavallo e proseguì. Il sole era tramontato dietro le montagne. Si inerpicò per il sentiero nella grande ombra delle montagne spiegata come un mantello blu sui pendii e sulle valli. Non era lontano dalla cima quando, girando intorno a un masso sporgente, udì un rumore di zoccoli davanti a lui. Non tornò indietro. A dire la verità, il sentiero era talmente stretto che lo stallone non avrebbe avuto lo spazio sufficiente per voltarsi. Superò lo sperone e si ritrovò in un punto dove il viottolo si allargava leggermente. Gli giunse alle orecchie un coro di urla minacciose, ma il suo stallone spinse con violenza un cavallo terrorizzato contro la roccia. Conan afferrò per un braccio con una stretta di ferro il suo cavaliere, costringendolo a sollevare a mezz'aria la spada sguainata. «Kerim Shah!» mormorò Conan mentre si accendeva una luce rossa negli occhi. Il turaniano non lottò. I loro cavalli erano quasi fianco a fianco e le dita di Conan stringevano il braccio con cui l'uomo teneva la spada. Dietro Kerim Shah sfilò un gruppo di altri Rakzai su cavalli scheletrici. Avevano sguardi da lupi e impugnavano archi e coltelli, ma la strettezza del sentiero e la prossimità del baratro che si spalancava sotto di loro li rendevano indecisi sul da farsi. «Dov'è la Devi?» domandò Kerim Shah. «Che cos'è per te la Devi, spia degli Irkaniani?» «Lo so che l'hai tu! Stavo andando a nord con alcuni montanari quando i nemici ci hanno teso un'imboscata al valico di Shalizah! Molti dei miei sono stati uccisi e il resto di noi si è disperso per i monti come gli sciacalli! Quando abbiamo fatto perdere le nostre tracce, abbiamo preso a ovest in direzione del valico di Amir Jeun e stamattina abbiamo trovato un Wazuli che errava per le montagne! Era quasi impazzito, ma dai suoi farfugliamenti sono riuscito a sapere parecchie cose prima che morisse. Ho saputo che era l'unico superstite di una banda che aveva seguito un capo Afghuli e una donna Xatria, sua prigioniera, in una gola a ridosso del villaggio di Kurum. Paneggiava di un uomo dal turbante verde che l'Afghuli aveva travolto con il cavallo, ma che quando i Wazuli lo avevano assalito, li aveva condannati a una morte ignota che li aveva spazzati via come una fiammata sollevata dal vento che spazza via un covo di locuste. Come aveva fatto a salvarsi io non lo so, e non lo sapeva neanche lui. Ma dai suoi balbettamenti ho capito che Conan di Gor era stato a Kurum con la sua illustre prigioniera. E quando abbiamo ripreso la strada per le montagne, abbiamo incontrato una ragazza Galzai completamente nuda che portava una zucca d'acqua, la quale ci ha raccontato di essere stata denudata da un capo tribù Afghuli, il quale, ci ha detto, ha dato i suoi vestiti a una donna vendiana che era con lui. Ci ha detto che eri diretto verso ovest. Kerim Shah non ritenne necessario spiegare che doveva incontrarsi con le truppe di Secunderam, quando una tribù ostile gli aveva sbarrato il passo. La strada per il valico di Gurashah era più lunga se si passava per il passo di Shalizah, anziché prendere la pista che partiva al passo di Yarim Jejun, ma quest'ultima attraversava una parte del territorio Afghuli, che Kerim Shah cercava accuratamente di evitare, finché non avesse radunato un esercito adeguato. Con il passo di Shalizah sbarrato, tuttavia, era stato costretto a prendere la strada proibita. Ma poi, saputa la notizia che Conan non aveva ancora raggiunto l'Afghulistan con la sua prigioniera, aveva preso a sud e si era spinto avanti alla massima velocità, nella speranza di sorprendere il cimero sulle montagne. «Perciò farai meglio a dirmi dov'è la Devi! Siamo in numero schiacciante!» Se uno solo dei tuoi cani si azzarda a muovere la lancia, ti butto giù dal dirupo. E in ogni caso non ricaveresti nessun vantaggio a uccidermi. 500 afghuli sono sulle mie tracce, e se scopriranno che li hai defraudati della preda ti scuoieranno vivo. E poi io non ho più la Devi, è caduta nelle mani dei veggenti neri dello Imsha. Eri il Tarimi, imprecò a bassa voce Kerimsha, scomponendosi per la prima volta. Kemsa è morto, i suoi padroni lo hanno spedito all'inferno con una frana, e adesso vattene dalla mia strada. Sarei felice di ucciderti se ne avessi il tempo, ma devo correre allo Imsha. Io verrò con te, disse il turaniano inaspettatamente, e Conan si mise a ridere. E credi che potrei fidarmi di te, cane di un Hyrkaniano? Non te lo chiedo. Vogliamo entrambi la Devi, e tu conosci le mie ragioni. Re Yezdigerd desidera annettere il suo regno al proprio impero e vuole la donna nel suo serraglio. E io conosco le tue mire da quando eri uno hetman nello steppe dei Kozaki. Perciò so che la tua unica ambizione è un bel bottino. Vorresti saccheggiare il Vendia e ottenere un enorme riscatto per Yasmina. Ebbene, per questa volta, senza farci reciproche illusioni, uniamo le nostre forze per liberare la Devi dai veggenti. Se ci riusciremo, e se saremo ancora vivi, ci batteremo per decidere chi dei due l'avrà. Conan scrutò attentamente l'altro per qualche secondo. Poi annuì e liberò il braccio del turaniano. D'accordo. E i tuoi uomini cosa faranno? Kerimsha si rivolse ai silenziosi Rakzai e parlò loro concisamente. Io e questo capo tribù stiamo andando allo Imsha a combattere contro i maghi. Volete venire con noi o preferite restare qui a farvi scorticare vivi dagli afghuli che inseguono quest'uomo? Gli uomini lo guardarono con un cupo senso di fatalismo. Erano condannati alla morte e lo sapevano. Lo sapevano da quando le frecce fischianti dei Dagozai li avevano costretti a fuggire dal passo di Shalizà. Gli uomini del basso Zaibar avevano troppe faide in corso con i nomadi delle montagne. Erano una banda troppo piccola per combattere per tutto il ritorno dalle montagne ai villaggi di frontiera senza la guida dell'abile turaniano. Si consideravano già morti, perciò risposero come soltanto dei morti avrebbero risposto. Verremo con te a morire sullo Imsha. Allora per Crom, muoviamoci. I miei lupi sono a ore di distanza, ma abbiamo perso maledettamente troppo tempo. Kerimsha fece indietreggiare il suo destriero tra lo stallone nero e lo sperone, rinfoderò la spada e voltò con attenzione il cavallo. La banda sfilò per il sentiero alla massima velocità consentita. Arrivarono sulla sommità quasi ad un miglio ad est, dal punto in cui Kemsa aveva fermato il cimmero e la Devi. La strada che avevano seguito era pericolosa anche per via dei montanari, e per questo Conan l'aveva evitata quel giorno che portava Yasmina, mentre Kerimsha, quando l'aveva inseguito, l'aveva imboccata, credendo che l'avesse fatto pure il cimmero. Perfino Conan sospirò di sollievo quando i cavalli ebbero superato l'ultimo precipizio. Avanzavano come cavalieri fantasma in un regno incantato di ombre. Il soffice scricchiolio del cuoio e lo stridio dell'acciaio comunicarono la loro avanzata. Poi i bui pendii di montagna rimasero nuovamente nudi e silenti alla luce delle stelle. Fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Otto. Yasmina ebbe solo il tempo di strillare quando si sentì avviluppare nel vortice color cremisi e strappare dalle braccia del suo protettore da una forza irresistibile. Lanciò un urlo e poi non ebbe più fiato per gridare. Venne accecata, assordata e ammutolita dalla tromba d'aria che le vorticava intorno. ebbe la vaga consapevolezza di trovarsi a un'altezza e a una velocità vertiginose. Poi l'impressione confusa di uno stravolgimento nelle leggi naturali. E infine la vertigine e l'oblio. Quando riprese i sensi, aveva ancora l'impressione di provare quelle sensazioni. Allora urlò e cercò di aggrapparsi disperatamente a qualcosa, come per opporsi a una caduta a capofitto. Le sue dita incontrarono un tessuto soffice e la pervase un senso confortante di stabilità. Cominciò a prendere confidenza con l'ambiente che la circondava. Era sdraiata su un divano ricoperto di velluto nero, posto in una grande stanza semibuia, alle cui pareti pendevano arazzi che riproducevano, con repellente realismo, immagini di draghi striscianti. Sull'alto soffitto si annidavano ombre confuse e negli angoli l'oscurità creava strane illusioni. Sembrava che non ci fossero porte e neanche finestre, oppure erano nascoste dagli arazzi scuri. Da dove provenisse quella fioca luce, Yasmina non riusciva a capirlo. Quella grande stanza era un regno di mistero, di ombre, di forme incerte, che avrebbe potuto giurare di vedere muoversi e che le invadevano la mente con un cupo terrore indefinibile. Poi il suo sguardo venne attirato da un altro oggetto. Su un divano, più piccolo del suo, a pochi passi di distanza, era seduto un uomo a gambe incrociate che la guardava con aria assorta. La sua lunga tunica di velluto nero, ricamata di fili d'oro, gli copriva interamente il corpo. Le mani erano nascoste dentro le maniche. Il viso era calmo, placido, non brutto, e gli occhi brillanti e leggermente a mandorla. Non muoveva un muscolo mentre stava lì ad osservarla e ne cambiò espressione quando si accorse che era tornata cosciente. Yasmina sentì stillarle lungo la spina dorsale una paura simile a un gocciolio d'acqua gelida. Si sollevò sui gomiti e guardò con timore lo sconosciuto. «Chi sei?» gli domandò. La sua voce suonò fragile e inadeguata. «Sono il maestro dello Yimsha!» Il tono era pieno e profondo, come le calde note della campana di un tempio. «Perché mi hai portata qui?» «Non mi stavi cercando!» «Se sei uno dei veggenti neri, sì!» gli rispose lei francamente, ritenendo che potesse leggerle comunque nel pensiero. Egli rise piano e di nuovo il gelo le attanagliò la spina dorsale. «Tu vorresti far rivoltare i figli delle montagne contro i veggenti dello Yimsha! Te l'ho letto nella mente, principessa, nella tua debole mente umana, piena di stupidi sogni d'odio e di vendetta!» «Tu hai ucciso mio fratello!» Un'ondata di collera gareggiò con la paura, serrò i pugni e irrigidì il corpo. «Perché lo hai perseguitato? Non ti aveva fatto alcun male! I sacerdoti dicono che i veggenti sono superiori alle vicende umane! Perché allora hai ucciso il re di Fendia?» «Come può una qualunque o un qualunque essere umano comprendere i motivi di un veggente? I miei accoliti dei templi di Tarim mi hanno pregato di intervenire in favore di Yezdigerd. Per ragione mia l'ho fatto. Come posso spiegare le mie finalità mistiche al tuo piccolo intelletto? Non capiresti!» «Una cosa la capisco. Mio fratello è morto!» Lacrime di dolore e di rabbia le facevano tremare la voce. Si sollevò sulle ginocchia e lo fissò con uno sguardo fiammeggiante, pericolosa in quel momento come una pantera. «Come Yezdigerd desiderava. Per un po' ho avuto il capriccio di spingere oltre le sue ambizioni.» «Yezdigerd è un tuo vassallo!» Yasmina si sforzò di controllare il tono della voce. Aveva sentito qualcosa di duro e simmetrico contro il ginocchio tra le pieghe del velluto. Con astuzia cambiò velocemente posizione, infilando la mano sotto la stoffa. «Il cane che lecca i rifiuti nel cortile del tempio è forse il vassallo del dio?» sembrava non si fosse accorto dei movimenti che Yasmina cercava di dissimulare. Nascoste dal velluto, le sue dita si strinsero intorno a quella che sapeva essere l'elsa di un pugnale. Chinò la testa per nascondere la luce di trionfo che le brillava negli occhi. «Sono stanco di Yezdigerd. Sono passato ora ad altri divertimenti. Ha!» Con un grido fiero, Yasmina saltò dal divano come un felino della giungla, colpendo furiosamente. Poi inciampò e scivolò per terra, dove si raggomitolò, fissando l'uomo sul divano. Questi non si era mosso. Il suo sorriso misterioso non era scomparso. Tremando, Yasmina sollevò la mano e la guardò con gli occhi sgranati. Non c'era più un pugnale tra le sue dita, ma lo stelo di un loto dorato, i cui boccioli schiacciati pendevano sul gambo sciupato. Lo lasciò cadere come se fosse una vipera e si allontanò carponi dal suo tormentatore. Tornò al proprio divano, poiché se non altro era più dignitoso per una regina essere seduta anziché starsene sul pavimento ai piedi di un mago a guardarlo impaurita, in attesa di un rimprovero. Ma il maestro non si mosse. «Tutte le sostanze sono una sola per colui che ha le chiavi del cosmo. Per un adepto, niente è immutabile. Al suo volere l'acciaio fa sbocciare fiori in giardini senza nome o luccicare spade infiorate alla luce della luna.» «Sei un demonio!» «Non io! Sono nato su questo pianeta molto tempo fa. Una volta ero un uomo comune e non ho perso tutti gli attributi umani negli innumerevoli eoni della mia iniziazione. Un mortale che apprende le arti arcane è più grande di un demonio. Io sono di origini umane, ma comando ai demoni. Hai visto i signori del cerchio nero? Ti annienterebbe l'anima sapere dal quale oscuro regno li ho chiamati e da quale destino li proteggo con il cristallo magico e i serpenti d'oro. Soltanto io posso comandarli. Il mio stupido Kemsa credeva di essere diventato grande. Povero sciocco! Far saltare porte concrete e trasportarsi per aria con la sua donna da una montagna all'altra. Eppure, se non fosse stato annientato, il suo potere avrebbe potuto crescere, forse fino a rivaleggiare col mio. E tu, povera sciocchina, tramare per mandare un irsuto montanaro a distruggere Imsha. È stato un tale scherzo che tu cadessi nelle sue mani che avrei potuto progettarlo io stesso se mi fosse venuto in mente. E leggo nella tua mente infantile l'intenzione di ricorrere alle tue astuzie femminili per realizzare lo stesso i tuoi piani. Pur con tutta la tua stupidità, tuttavia, resti una bella donna da guardare. Ah! Desidero tenerti come mia schiava! A sentire queste parole, la figlia di generazioni di imperatori orgogliosi restò senza fiato per l'indignazione e la vergogna. Non oserai! La sua risata beffarda la sferzò come una frustata sulle spalle nude. Il re non osa forse imprigionare un verme della strada? Sciocchina, non capisci che il tuo orgoglio regale per me è poco più di una pagliuzza al vento? Per me che ho conosciuto i baci delle regine degli inferi. Hai visto come tratto io i ribelli? Umiliata e impaurita, la ragazza si rannicchiò sul divano di velluto. La luce era diventata più fioca e più fantasmagorica. I lineamenti del maestro le si fecero confusi e la sua voce assunse un nuovo tono di comando. «Non cederò mai a te!» La voce le tremava dalla paura, ma aveva una certa determinazione. succederai. Te lo insegneranno la paura e il dolore. Ti infliggerò orrore e sofferenza fino all'ultima oncia di sopportazione, finché diventerai morbida come la cera e potrò modellarti nelle mie mani a mio piacimento. Conoscerai castighi che nessuna donna mortale ha mai conosciuto, finché ogni mio ordine sarà per te come l'inalterabile volontà degli dèi. E prima di tutto, per piegare il tuo orgoglio, viaggerai nei secoli perduti e vedrai tutte le forme che hai assunto. Ai, villa la coscia! A queste parole, la stanza buia ondeggiò davanti agli occhi terrificanti di Yasmina. Le formicolarono i capelli e la lingua le si incollò al palato. Da qualche parte un gong suonò una nota profonda e minacciosa. I draghi degli arazzi si illuminarono di un fuoco azzurro e poi scomparvero. Il maestro sul divano divenne un'ombra confusa. La luce fioca cedette il posto alle tenebre, talmente fitte da sembrare tangibili e pulsanti di strane radiazioni. Non vedeva più il maestro, non vedeva più niente. Ebbe la strana sensazione che il soffitto e le pareti si fossero allontanati incommensurabilmente da lei. Poi, in un punto nelle tenebre, si intravide un luccichio, simile a quello di una lucciola, che si spegneva e riaccendeva intermittenza. Si trasformò in un globo d'oro, e mentre ingigantiva, la sua luce divenne più intensa, più incandescente. All'improvviso scoppiò, inondando la stanza con una pioggia di scintille bianche che non riuscirono a rischiarare le ombre, ma che lasciarono una lieve luminescenza e rivelarono un dardo sottile che schizzò fuori rapidamente dal pavimento buio. Sotto gli occhi sgranati della ragazza questo si aprì e prese forma. Apparvero steli e foglie larghe e grossi fiori neri, velenosi, la sovrastarono con la loro altezza, facendola aggrappare al velluto. L'aria venne pervasa da un sottile profumo. Sotto ai suoi occhi era sbocciato il perfido loto nero, così come cresce nelle giungle misteriose e proibite del Kitai. Le grosse foglie palpitavano di vita malvagia. I fiori si curvavano su di lei come creature senzienti, ondeggiando sinuosamente come serpenti sugli steli flessibili. Profilato contro quelle tenebre soffici e impenetrabili, il loto la sovrastava gigantesco, a malapena visibile nell'oscurità, eppure follemente incombente. La sua mente veniva ottenebrata dal suo effluvio narcotizzante e lei cercò di ritirarsi dal divano. Ma poi, quando ebbe la sensazione di trovarsi a un'inclinazione impossibile, vi si aggrappò nuovamente. Urlò di terrore e afferrò il velluto, ma sentì che la strappavano brutalmente le dita dalla presa. Le parve che svanisse ogni certezza, insieme alla normalità. Era un atomo senziente e tremante, sospeso nel vuoto ruggente, nero e glaciale, flagellato da un vento roboante che minacciava di smorzare la sua minuscola scintilla vitale come una candela accesa nella tempesta. Poi seguì un periodo di impulsi e movimenti alla cieca, in cui l'atomo, che era lei, si confuse e si immerse insieme a una miriade di altri atomi proliferanti nel fango ribollente dell'esistenza, modellato da forze plasmanti, fino a riemergere di nuovo come individuo cosciente, roteando dentro una spirale infinita di vite. In una nebbia di terrore rivisse tutte le sue forme di esistenza precedenti e fu, di nuovo, tutti i corpi che avevano contenuto i suoi nei secoli che si succedevano. Si ferì nuovamente i piedi sulla lunga e faticosa strada della vita che si spiegava dietro a lei, fino al passato immemorabile. Ritornata all'alba del tempo, si raggomitolò tremando nelle giungle primordiali, infestate di belve predatrici. Nuda come un verme, si immerse fino all'inguine negli acquitrini, lottando con gli uccelli acquatici per afferrare i preziosi granelli di riso. Faticò davanti ai buoi per trascinare l'aratro appuntito nel suolo coriaceo e dormì rannicchiata sulla tela nelle capanne dei contadini. Vide città cinte di mura scoppiare in fiamme e fuggì urlando davanti agli assassini. Si raggomitolò nuda e sanguinante sulla sabbia bruciante. Venne trascinata alla staffa dalle schiave, e conobbe la stretta di mani calde e forti sulla sua pelle recalcitrante, la vergogna e il dolore della più brutale lussuria dell'uomo. Urlò sotto il morso della frusta e gemette sulla ruota della tortura. Folle di terrore, lottò contro le mani che la spingevano inesorabilmente la testa su di un ceppo insanguinato. Conobbe le sofferenze del parto e l'amarezza dell'amore tradito. Patì tutte le pene, tutti i torti e tutta la violenza che l'uomo ha inflitto alla donna nel corso dei millenni, e sopportò tutti gli insulti e la malizia delle donne verso le donne. E per tutto il tempo la tormentò la consapevolezza di essere una Devi, di essere la Devi del Vendhya. Era tutte le donne che era stata, ma sapeva al tempo stesso di essere Yasmina. Non aveva perso questa coscienza negli spasimi delle reincarnazioni. Era al tempo stesso la schiava nuda che si trascinava sotto la frusta e l'orgogliosa Devi del Vendhya. E soffriva non solo come schiava, ma anche come Yasmina, per il cui orgoglio la frusta era come un marchio a fuoco. Le vite si mescolarono alle vite nel caos turbinante, ognuna con il suo fardello di dolore e vergogna, finché udì debolmente la propria voce che urlava insopportabilmente, come un grido di agonia trattenuto a lungo echeggiante nei secoli. Poi si svegliò sul divano di velluto, nella stanza mistica. In una luce verde spettrale vide di nuovo il divano con la misteriosa figura avvolta nella tunica che vi era seduta. La testa incappucciata era abbassata, le spalle alte si profilavano vagamente nell'oscurità. Non riusciva a scorgere con chiarezza i dettagli, ma il cappuccio le incuteva una vaga inquietudine che le bloccò la lingua contro il palato. La sensazione che non fosse il maestro la persona seduta in profondo silenzio su quel divano nero. Allora la figura si mosse e si alzò, incombendo sopra di lei. Si chinò su di lei e le lunghe braccia, nascoste dalle ampie maniche nere, la cinsero. Ella lottò, in preda a una paura inesprimibile, sorpresa dalla loro durezza. La testa incappucciata si chinò sul suo viso levato, e lei gridò e continuò a gridare per la paura e il disgusto. Braccia ossute avvinghiarono il suo fragile corpo, e da quel cappuccio uscì il volto della morte e della putredine, una pergamena in via di sgretolamento su un teschio in decomposizione. E poi, mentre quella bocca ghignante e avida si avvicinava alle sue labbra giovani e piene, ella perse i sensi. Nove. Il sole era sorto sulle bianche vette degli Himeliani. Ai piedi di una lunga scarpata, un gruppo di cavalieri si fermò e guardò in alto. Sopra di loro si ergeva una torre a picco sulla montagna. Al di là di questa, luccicavano i torrioni di una fortezza più grande, vicino alla linea in cui la neve cominciava a incappucciare la cima dello Yimsha. L'insieme aveva un'aria irreale. Le pendici purpuree che si lanciavano verso quel castello fantastico, rimpicciolite dalla distanza, e sopra questo la vetta bianca scintillante che sosteneva il peso del cielo azzurro e freddo. Il tutto rendeva veramente l'insieme irreale. «Lasceremo qui i cavalli! Quella parete insidiosa è più sicura a piedi! E poi comunque sono sfiniti!» Conan scese dallo stallone nero, che se ne stava a zampe larghe e con la testa a ciondoloni. Avevano viaggiato per tutta la notte, mangiucchiando quello che avevano nelle bisacce e fermandosi solo per dare il riposo necessario ai cavalli. «Nella prima torre ci sono gli accoliti dei veggenti neri, almeno così dicono. Fanno da cani da guardia ai loro padroni, ed essi sono solo maghi inferiori. Non resteranno a succhiarsi il pollice mentre scaleremo questa montagna!» Kerim Shah alzò lo sguardo e osservò la montagna, poi posò gli occhi sulla strada che avevano fatto. Erano già arrivati a una certa altezza sullo Yimsha, e sotto di loro si apriva una vasta distesa di picchi più bassi e di gole. In quei labirinti il turaniano cercò invano un movimento di colori che tradisse la presenza di uomini. Evidentemente gli inseguitori afghuli avevano perso le tracce del loro capo durante la notte. «Andiamo allora!» Legarono i cavalli stremati a un cespuglio di tamarisco e senza dire altro cominciarono la loro scalata. Non c'erano coperture, era un pendio spoglio, cosparso di massi non sufficientemente larghi per nascondere un uomo. Ma nascondevano qualcos'altro. Il gruppo non aveva ancora fatto 30 metri, che un'ombra ostile uscì improvvisamente da dietro una roccia. Era uno di quei cani selvaggi e scheletrici che infestavano i villaggi di montagna, con gli occhi iniettati di sangue e la bava schiumante dalla bocca. Conan era in testa al gruppo, ma la bestia non attaccò lui. Lo superò con un salto e balzò addosso a Kerim Shah. Il turaniano balzò da una parte e il cagnaccio si avventò sull'Irakzai che era dietro di lui. L'uomo urlò e alzò il braccio, che il bruto aveva zannato selvaggiamente. E un attimo dopo sei tulwar sfrecciarono verso l'animale. Soltanto quando venne fatta letteralmente a pezzi, l'orrenda creatura smise di dibattersi e di aggredire i suoi attaccanti. Kerim Shah fasciò il braccio ferito del guerriero, lo osservò attentamente e poi si allontanò senza dire una parola. Tornò da Conan, quindi ripresero la scalata in silenzio. Un attimo dopo Kerim Shah disse: «Strano trovare un cane da villaggio in questo posto!» «Qui non ci sono avanzi», grugnì Conan. Entrambi si girarono a guardare il guerriero ferito che li seguiva con i compagni. Aveva la faccia bruna madida di sudore e stringeva i denti per il dolore. Poi guardarono di nuovo tutti e due le torri che li sovrastava. Una quiete sonnolenta sommergeva gli altipiani. La torre non mostrava segni di vita e nemmeno la strana struttura piramidale alle sue spalle. Ma gli uomini che si arrampicavano salivano con la tensione nervosa di chi si sta incamminando sul bordo di un cratere. Kerim Shah aveva slacciato il potente arco turaniano che uccideva 500 passi e gli Irakzai tenevano pronti i loro archi più leggeri e non altrettanto micidiali. Ma non erano ancora a distanza di tiro dalla torre quando dal cielo scese qualcosa senza alcun preavviso. Passò talmente vicino a Conan che questi sentì il vento sollevato dalle sue ali fruscianti. Ma fu un Irakzai a vacillare e a cadere con la giugulare recisa. Un falco con un paio d'ali affilate come l'acciaio partì nuovamente alla carica con il becco ricurvo colante sangue e salì in alto spiraleggiando mentre Kerim Shah faceva scoccare l'arco. L'uccello cadde giù come piombo, ma nessuno lo vide battere in terra. Conan si chinò sopra la vittima dell'attacco, ma l'uomo era già morto. Nessuno parlò. Era inutile commentare il fatto che non si era mai sentito che un falco aggredisse l'uomo. Negli animi selvaggi degli Irakzai, l'ira cominciò a rivaleggiare con la rassegnazione fatalistica. Le loro mani irsute strinsero gli archi e gli uomini guardarono vendicativamente la torre, il cui silenzio era già un'irrisione. Ma l'attacco successivo giunse velocemente. Lo videro tutti. Una palla di fumo bianco che si condensò sopra la torre e scese giù roteando verso di loro. La seguivano altre palle simili. Sembravano inoffensive, semplici batuffoli lanuginosi di schiuma. Ma Conan si spostò da una parte per evitare il contatto con la prima. Alle sue spalle un Irakzai infilò la spada dentro quella massa instabile. Immediatamente uno scoppio fragoroso scosse la montagna. Esplosero delle fiamme accecanti. E poi la palla bianca svanì e del guerriero, troppo curioso, rimase un mucchietto di ossa bruciate e annerite. In mano stringeva ancora l'elsa d'avorio della spada, ma la lama non c'era più perché quel calore micidiale l'aveva fusa. Tuttavia gli uomini che si trovavano vicino alla vittima non avevano risentito della detonazione, a parte un leggero stordimento e accecamento provocati dalla fiammata improvvisa. «L'acciaio le fa esplodere! In guardia! Arrivano!» mugugnò Conan. Il pendio sopra di loro era quasi interamente ricoperto di sfere ondeggianti. Kerim Shah piegò l'arco e diresse una freccia dentro quella massa vaporosa e le palle sfiorate dalla freccia scoppiarono come bolle eruttando fuoco. I suoi uomini seguirono il suo esempio e nei minuti successivi si sentirono boati fragorosi per tutta la montagna, con scoppi e piogge di fiamme. Quando il fuoco cessò, erano rimaste soltanto poche frecce nelle faretre degli arcieri. Il gruppo riprese ad avanzare torvamente sul terreno bruciato e annerito, dove la nuda roccia era stata tramutata in lava dall'esplosione di quelle bombe diaboliche. Adesso erano quasi a tiro di freccia dalla torre silenziosa. Con i nervi tesi, allargarono le file, pronti ad affrontare qualsiasi orrore discendesse su di loro. Sulla torre apparve una figura che sorreggeva un corno di bronzo alto 10 piedi. Il suo muggito stridente risuonò per i monti, echeggiando come la fanfara delle trombe del giorno del giudizio, e le montagne gli risposero spaventosamente. Il terreno tremò sotto i piedi degli invasori e dalle profondità sotterranee salirono scoppi e boati. Gli Irakzai urlarono, vacillando come ubriachi sul pendio che oscillava, e Conan, con gli occhi sgranati, si lanciò selvaggiamente alla carica sul pendio, il coltello in mano, puntando dritto alla porta che appariva nel muro della torre. Sopra di lui il grande corno mugghiava e risuonava, schernendolo brutalmente. E poi Kerim Shah scoccò una freccia che gli fischiò dietro le orecchie. Soltanto il Turaniano poteva aver scoccato un simile colpo. Il muggito del corno cessò immediatamente e al suo posto salì uno strillo acuto. La figura nella tunica verde che era sulla torre vacillò, afferrò con le mani la lunga freccia che gli trapassava il petto e alla fine precipitò dal parapetto. Il grande corno cadde di traverso sui bastioni, dove rimase in equilibrio precario, e una seconda persona in tunica corse ad afferrarlo, gridando terrorizzata. L'arco del Turaniano si tese di nuovo e gli rispose un altro grido di morte. Il secondo accolito, nel cadere, urtò il corno con il gomito e questo finì giù dal parapetto, schiantandosi in 1000 pezzi sopra le rocce sottostanti. Conan aveva colmato la distanza a tale velocità che prima ancora che gli echi della caduta del corno si spegnessero, aveva già raggiunto la porta. Avvertito dal suo istinto selvaggio, si ritrasse improvvisamente, mentre una colata di piombo fuso veniva rovesciata dall'alto. Un attimo dopo, però, ripartì all'attacco, prendendo a spallate la porta con rinnovata furia. Era galvanizzato dal fatto che i suoi nemici avessero fatto ricorso ad armi terrene. Dunque le arti magiche degli accoliti erano limitate. Potevano benissimo aver esaurito le loro risorse. Kerim Shah stava arrivando di corsa dal pendio, seguito dai suoi montanari disposti a mezzaluna. Mentre correvano, i guerrieri si separarono, tirando frecce contro i muri o facendole arrivare oltre il parapetto. Il pesante portone alla fine cedette sotto gli assalti del cimmero. E Conan scrutò cautamente all'interno, aspettandosi di tutto. Aveva davanti a sé una sala circolare dalla quale saliva una scala a chiocciola. Dall'altra parte c'era una porta spalancata che si affacciava sul pendio e che gli mostrò anche le schiene di una mezza dozzina di figure in tunica verde che se la davano a gambe. Conan, facendo un urlo, entrò dentro la torre. E la cautela istintiva lo fece indietreggiare nell'attimo preciso in cui un grosso blocco di pietra si schiantava sul pavimento, proprio dove un secondo prima aveva posato il primo piede. Chiamando i suoi seguaci, esplorò di corsa la torre. Gli accoliti avevano sgombrato il campo. Mentre girava intorno alla torre, Conan vide le loro tuniche verdi sulla montagna davanti a lui. Gli si mise dietro assetato di sangue, e dietro lui arrivarono di corsa Kerim Shah e gli Irakzai. Questi ultimi ululando come lupi davanti alla fuga dei nemici, il loro fatalismo sommerso momentaneamente dal temporaneo trionfo. La torre sorgeva sul bordo inferiore di uno stretto acrocoro, la cui inclinazione verso l'alto era appena percepibile. A poche centinaia di metri l'acrocoro terminava bruscamente in un baratro, il quale risultava invisibile da sotto la montagna. Sembrava che gli accoliti si fossero gettati nel burrone a folle velocità. I loro inseguitori videro infatti le loro tuniche verdi fluttuare e scomparire dentro la voragine. Qualche secondo dopo arrivarono anche loro sul ciglio del burrone che li separava dal castello dei Veggenti Neri. Era una parete liscia a strapiombo che si allungava in tutte le direzioni, girando a quel che sembrava intorno alla montagna, larga all'incirca 400 metri e profonda 500 piedi. E al suo interno luccicava una strana nebbiolina traslucida. Guardando in basso, Conan grugnì. Giù in fondo, sul pavimento scintillante che splendeva come argento lucido, vide muoversi le sagome degli accoliti dalle tuniche verdi. I loro contorni erano ondeggianti e indistinti, come se si trovassero sott'acqua. Camminavano in fila indiana, dirigendosi alla parete opposta. Kerim Shah scoccò una freccia verso il basso, ma quando questa colpì la nebbia che riempiva la voragine, parve perdere velocità e direzione e deviò vistosamente dal bersaglio. «Se loro ci sono arrivati, possiamo scendere pure noi!» disse Conan, mentre Kerim Shah guardava la sua freccia stupito. «L'ultima volta che li ho visti, erano in questo punto!» Scrutando giù, Conan vide qualcosa che luccicava come un filo d'oro sul pavimento del canyon. Sembrava che gli accoliti seguissero quel filo, e allora gli tornarono in mente all'improvviso le enigmatiche parole di Kemsa: «Segui la vena d'oro!» Abbassandosi sul ciglio del burrone, tastando con la mano, trovò una sottile vena d'oro che partiva dal punto di affioramento del minerale e scendeva giù fino al pavimento d'argento. E scoprì anche un'altra cosa che prima risultava invisibile a causa della strana rifrazione della luce. La vena d'oro seguiva una piccola rampa che finiva giù nel burrone, provvista di punti d'appoggio per mani e piedi. «Ecco da dove sono scesi! Non sono adepti e ancora non sanno sollevarsi in aria! Li seguiremo!» Fu in quell'istante che l'uomo, morso dal cane impazzito, lanciò un urlo spaventoso e saltò addosso a Kerim Shah, schiumando bava e digrignando i denti. Il turaniano, lesto come un gatto, si spostò da una parte e il folle andò a finire con la testa dritto nella voragine. Gli altri corsero sul bordo e seguirono sbalorditi la sua caduta. L'uomo, infatti, non cadde giù come piombo, ma fluttuò nella lebbiolina rosea come se cadesse nell'acqua fonda. Agitava le gambe e le braccia come se cercasse di nuotare, con la faccia rossa e sconvolta dalla follia. Alla fine, il suo corpo si posò sul pavimento luccicante e giacque immobile. «C'è la morte in quella voragine! E adesso, Conan?» «Boh, quegli accoliti sono umani! Se la nebbia non li uccide, non ucciderà neanche me!» Conan si legò meglio il cinturone e le sue mani toccarono per caso la cintura che gli era stata data da Kemsa. Prima mugugnò e poi sorrise. Aveva scordato la cintura, eppure la morte stessa gli era passata vicino ben 3 volte, colpendo alla fine un'altra vittima. Gli accoliti erano arrivati dall'altra parte e stavano risalendo la parete come grosse mosche verdi. Calandosi sulla rampa, Conan scese con cautela. La nuvola rosa gli lambì le ginocchia, poi l'inguine, poi la vita e poi le braccia. Si sentiva come quando ci si ritrova nella nebbia fitta in una notte umida. Quando gli arrivò al mento, ebbe un attimo di esitazione, ma alla fine si immerse. Smise all'istante di respirare, gli mancò completamente l'aria e sentì le costole premere contro le viscere. Con uno sforzo pazzesco riuscì a sollevarsi, lottando per la vita. Con la testa raggiunse la superficie e inghiottì l'aria a grosse boccate. Kerim Shah si abbassò verso di lui e gli disse qualcosa, ma Conan non lo udì né gli prestò ascolto. Concentrandosi ostinatamente su quello che gli aveva detto Kemsa prima di morire, il cimero cercò la vena d'oro e scoprì nel discendere che si era allontanato dal suo tracciato. Nella rampa c'erano diversi punti d'appoggio per le mani. Portandosi direttamente sopra il filo, cominciò a scendere un'altra volta. La nebbia rosea lo inghiottì nuovamente. Adesso aveva la testa completamente sommersa, ma seguitava a respirare aria pura. Di sopra vide i compagni che lo fissavano, ma i loro volti erano confusi dalla caligine che lo ricopriva. Conan fece loro un cenno di seguirlo, senza aspettare di vedere se lo facevano o no. Kerim Shah ripose nel fodero la spada senza dire parola e lo seguì. E gli Irakzai, più spaventati dall'idea di essere lasciati soli che dagli orrori che si nascondevano là sotto, gli si misero dietro. Seguirono tutti il filo d'oro come vedevano fare al cimmero. Arrivati alla fine della rampa, scesero sul pavimento luccicante della voragine e avanzarono cautamente, continuando a seguire la vena d'oro come funamboli. Sembrava che camminassero dentro un tunnel invisibile nel quale circolava liberamente l'aria. Avvertivano la morte che li attendeva da entrambi i lati, ma questa non li sfiorò. La vena risaliva su una rampa simile alla precedente lungo il muro, nel quale erano scomparsi gli accoliti, e i guerrieri si arrampicarono nuovamente con i nervi tesi, senza sapere cosa li aspettava tra le rocce aguzze che frastagliavano il bordo del precipizio. Ad aspettarli erano gli accoliti con i coltelli in mano. Forse avevano raggiunto il limite massimo della loro ritirata. Forse la cintura stigia che cingeva la vita di Conan avrebbe saputo dire perché i loro incantesimi negromantici si erano dimostrati così deboli, esaurendosi tanto in fretta. Forse era la consapevolezza che gli attendeva la morte in caso di fallimento a farli uscire dalle rocce con gli occhi spalancati alle lame scintillanti, ricorrendo alle armi materiali come ultima risorsa. Lì, tra gli spuntoni del precipizio, non fu più una questione di arti magiche. Fu un turbinare di lame, dove colpiva l'acciaio vero e sgorgava il sangue vero, dove le braccia muscolose assestavano colpi che recidevano i tendini e dove gli uomini cadevano a terra e venivano calpestate dagli altri nell'impeto della battaglia. Uno degli Irakzai sanguinava a morte tra le rocce, ma gli accoliti erano stati sconfitti, squarciati e mutilati, oppure scagliati dal burrone per volare lentamente verso il pavimento d'argento che luccicava da basso. Poi i vincitori si tersero il sangue e il sudore dagli occhi e si guardarono l'un l'altro. Conan e Kerim Shah, insieme a 4 Irakzai, erano ancora in piedi. Stavano eretti tra gli spuntoni che circondavano il ciglio del burrone e da quel punto scorsero un sentiero che si snodava su per una lieve pendenza, dove si trovava una larga scala con 6 gradini, larghi 100 piedi e fatti di un materiale verde simile alla giada. I guerrieri vi salirono e giunsero su una specie di terrazza della medesima pietra levigata sulla quale sorgeva il castello dei veggenti neri. Pareva scolpito nella pietra liscia della montagna. L'architettura era perfetta ma disadorna. Le numerose finestre erano tutte sbarrate e coperte da tendaggi interni. Non c'era segno di vita, né amichevole e nemmeno ostile. Risalirono il sentiero in silenzio, con la cautela di chi va a caccia di un serpente. Gli Irakzai erano muti, come uomini in marcia verso un destino segnato. Perfino Kerim Shah restava zitto. Soltanto Conan sembrava ignorare quale sovvertimento del pensiero e del comportamento rappresentava la loro intrusione, quale inconcepibile violazione della tradizione essa costituiva. Lui non era un orientale e discendeva da una razza che aveva combattuto demoni e maghi con la medesima prontezza e praticità con cui si combattevano i nemici umani. Conan superò le scale scintillanti e attraversò la galleria verde che conduceva direttamente alla massiccia porta di Tech intarsiata d'oro che vi si affacciava. Lanciò una sola occhiata ai piani più alti della grande struttura piramidale che torreggiava sopra di lui. Allungò la mano verso il battente di bronzo che sporgeva dalla porta come una maniglia. E poi si arrestò e rise trucemente. La maniglia era fatta a forma di serpente con la testa sollevata sul collo inarcato. E Conan aveva il sospetto che quella testa di metallo avrebbe preso vita se l'avesse toccata con la mano. La staccò dalla porta con un solo colpo. E il fracasso del bronzo che cadeva sul pavimento lucido non gli fece diminuire la cautela. Prima la spostò con la punta del coltello e poi si concentrò nuovamente sulla porta. Sulle torri regnava un silenzio assoluto. Lontano sotto di loro i pendii della montagna svanivano in una nebbia purpurea. Il sole splendeva sui picchi incappucciati di neve da entrambi i lati. In alto volteggiava un avvoltoio come un punto nero nell'azzurro gelido del cielo. A parte l'uccello, gli uomini davanti alla porta intarsiata d'oro erano l'unico segno di vita, piccole figure sopra una terrazza di giada verde posta ad un'altezza vertiginosa, con quella fantastica piramide di pietra che svettava sopra di loro. Gli uomini e Conan vennero colpiti da una raffica di vento che sferzò i loro vestiti a brandelli. Il lungo coltello di Conan, quando il cimmero lo infilò nelle ante di Tech della porta, suscitò echi allarmanti. Il guerriero colpì di nuovo, stavolta spaccando sia il legno che le bande di metallo. Attraverso la fenditura sbirciò all'interno, vigile e sospettoso come un lupo. Vide un'ampia sala dai muri lisci e spogli, con degli sgabelli d'ebano e un divano di pietra come unico arredo. Non c'era segno di vita umana. Una seconda porta lasciava intravedere la parete di un'altra stanza. «Lascia qui un uomo di guardia! Io entro!» grugnì Conan a Kerim Shah. Kerim Shah scelse un guerriero per quel compito e l'uomo tornò al centro della galleria con l'arco in pugno. Conan entrò nel castello seguito dal Turaniano e dai tre Irakzai superstiti. L'uomo appostato di fuori imprecò, borbottò sotto la barba e trasalì improvvisamente, udendo una risata beffarda nelle orecchie. Sollevando la testa vide, su un piano del castello, un'alta figura in tunica nera che annuiva lentamente con la testa glabra guardandolo dall'alto. Il suo atteggiamento suggeriva malignità e scherno. Veloce come un fulmine, l'Irakzai tese l'arco e scoccò una freccia, e questa colpì in pieno il petto dell'uomo con la tunica nera. Ma il suo sorriso beffardo non svanì. Il veggente raccolse il dardo e lo rimandò all'arciere con un gesto sprezzante, ma non per colpirlo. L'Irakzai si abbassò alzando istintivamente un braccio. Le sue dita si chiusero sulla freccia di ritorno. Poi urlò, perché nella sua mano l'asticella di legno si era improvvisamente rimpicciolita. Da rigida era diventata morbida e gli si sciolse in mano. L'uomo cercò di buttarla via, ma era troppo tardi. Ormai c'era un serpente vivo nella sua mano e questo, che gli si era già avvolto intorno al polso, lo morse al braccio muscoloso con la testa a cuneo. Il guerriero gridò di nuovo, i suoi occhi si dilatarono e la faccia divenne paonazza. Scosso da terribili convulsioni, cadde in ginocchio e poi crollò a terra. All'udire il primo urlo, gli uomini dentro il castello accorsero da lui. Conan fece un rapido balzo verso la soglia aperta, poi si fermò scornato. Ai guerrieri che gli stavano dietro parve che il cimero lottasse contro l'aria. Ma anche se il barbaro non vedeva niente, sentiva una superficie liscia e dura sotto le mani e sapeva che era stata alzata una lastra di cristallo davanti alla porta. Da questa vide l'Irakzai immobile sulla terrazza di vetro, colpito al braccio da una normale freccia. Conan alzò il coltello e colpì, e gli altri rimasero allibiti nel vedere che il suo fendente si fermava apparentemente a mezz'aria, producendo il tipico rumore dell'acciaio contro una sostanza dura. Il cimmero non sprecò altro tempo. Sapeva che nemmeno il leggendario Tulwar di Amir Kurum poteva infrangere quella barriera invisibile. In pochissime parole spiegò la faccenda a Kerim Shah e il Turaniano alzò le spalle. «Ebbene, se questa uscita è sbarrata dobbiamo trovarne un'altra! Nel frattempo dobbiamo andare avanti, no?» Con un grugnito il cimero si voltò e attraversò la stanza e quando raggiunse la porta ebbe la sensazione di trovarsi sulla soglia del fato. Quando sollevò il coltello per abbattere la porta, questa si aprì silenziosamente, come se avesse una volontà propria. Conan entrò in una grande sala, fiancheggiata da alte colonne di cristallo. A 100 piedi dalla porta cominciava una grande scalinata verde giada che verso la cima si assottigliava come la faccia di una piramide. Che cosa c'era al di là di questa non si poteva dire. Ma tra lui e la base scintillante era eretto uno strano altare di giaietto nero luccicante. Quattro grandi serpenti intrecciavano le code intorno all'altare e sollevavano in alto le teste cuneiformi, chiudendo i quattro quarti del perimetro come i guardiani incantati di un tesoro fiabesco. Sopra l'altare, però, in mezzo ai loro colli inarcati, c'era soltanto un globo di cristallo contenente una sostanza vaporosa come una nuvola, nella quale galleggiavano quattro melagrane d'oro. Quella vista gli risvegliò un vago ricordo, ma poi non si curò oltre dell'altare, perché sui gradini inferiori della scala apparvero quattro figure in tunica nera. Conan non le aveva viste arrivare, erano semplicemente lì, alte, scheletriche, le teste d'avvoltoio che annuivano contemporaneamente, le mani e i piedi nascosti dalle vesti fluttuanti. Una di loro alzò un braccio e la manica cadde giù rivelando la sua mano, che non era affatto una mano. Conan si fermò a mezza strada, costretto a farlo contro la propria volontà. Aveva incontrato una forza più sottile del mesmerismo di Kemsa e non poteva andare avanti, anche se sentiva che avrebbe potuto indietreggiare se l'avesse voluto. Anche i suoi compagni si erano fermati e sembravano più impotenti di lui, incapaci di muoversi in qualunque direzione. Il veggente, che aveva alzato il braccio, chiamò a sé uno degli Irakzai e l'uomo andò verso di lui come in trance. Gli occhi fissi e sbarrati e aveva il coltello tra le dita inerti. Quando passò davanti a Conan, il cimero lo cinse con un braccio per bloccarlo. Conan era talmente più forte di lui che in circostanze normali avrebbe potuto spezzargli in due la spina dorsale. Ma adesso il suo braccio possente venne spazzato via come una pagliuzza e l'Irakzai andò verso la scala, camminando come un automa. Raggiunse le scale e si inchinò rigidamente, offrendo la sua lama e abbassando la testa. Il veggente prese la spada e descrisse in un lampo una linea orizzontale. La testa dell'Irakzai si staccò dalle spalle e rotolò pesantemente sul pavimento di marmo nero. Dalle arterie recise sgorgò un fiotto di sangue e il corpo cadde giù a braccia aperte. Un'altra mano deforme si sollevò e chiamò una nuova vittima a sé, e un altro Irakzai vacillò rigidamente incontro al proprio destino. La macabra scena venne quindi ripetuta e un secondo corpo decapitato giacque accanto al primo. Quando il terzo guerriero si mosse goffamente verso la morte e superò Conan, il cimero con le vene dalle tempie gonfie per lo sforzo di spezzare la barriera invisibile che lo tratteneva, si rese improvvisamente conto di avere delle forze alleate invisibili che tornavano alla vita intorno a lui. La scoperta giunse inaspettatamente, ma con una tale potenza che non poté dubitare del proprio istinto. La sua mano sinistra scivolò involontariamente sotto il cinturone di Bakariot e afferrò la cintura stigia. Non appena la strinse, sentì rifluire una nuova forza nelle membra intorpidite, una volontà di vivere incontenibile come un fuoco incandescente e fiammeggiante, pari all'intensità della sua collera bruciante. Il terzo Irakzai venne decapitato e l'orrendo artiglio si stava sollevando di nuovo quando Conan sentì che la barriera invisibile esplodeva in mille pezzi. Un grido selvaggio e incontrollabile gli scoppiò in gola mentre si liberava con la velocità esplosiva della violenza repressa. Con la sinistra si avvinghiò alla cintura del mago come un uomo che affoga si aggrappa a un tronco di albero, e il lungo coltello brillò come una folgore nella sua mano destra. Gli uomini sulla scala non si mossero. Lo osservarono con calma, cinicamente. Se erano sorpresi, non lo dettero a vedere. Conan non pensò a cosa sarebbe accaduto quando fossero stati alla portata del suo coltello. Il sangue gli martellava nelle tempie e davanti agli occhi aveva una nebbia rossa. Bruciava dalla smania di uccidere, di infilare il coltello nella carne e nelle ossa, di rigirare la lama nel sangue e nei visceri. Un'altra decina di passi lo avrebbe portato sotto le scale dove si trovavano quei demoni beffardi. Fece un respiro profondo, raccogliendo le forze e scatenando poi tutta la propria furia nello slancio finale. Stava superando l'altare con i serpenti d'oro quando gli esplosero nel cervello, come se risuonassero nell'aria, le enigmatiche parole di Kemsa: «Rompi la sfera di cristallo!» La sua reazione fu quasi involontaria. Agì d'impulso, così istintivamente, che neanche il più grande mago dei suoi tempi avrebbe avuto il tempo di leggergli nella mente e prevenire il suo atto. Girandosi come un gatto a metà corsa, fracassò il cristallo con il coltello. Nell'aria scoppiò immediatamente un terrificante fragore. Se venisse dalla scala, dall'altare o dal cristallo medesimo, non sapeva dirlo. Dei sibili gli giunsero all'orecchio quando i serpenti d'oro, prendendo improvvisamente e mostruosamente vita, cominciarono a sferzare le code contro di lui. Ma Conan aveva dentro il fuoco di una tigre inferocita e con la velocità di un turbine vibrò la spada sui ripugnanti tronchi che ondeggiavano davanti a lui e poi colpì più volte la sfera di cristallo. Allora il globo esplose con un boato di tuono, facendo schizzare una miriade di schegge sul marmo nero, e le melagrane d'oro, come se venissero liberate dalla prigionia, balzarono verso l'alto soffitto e scomparvero. Per tutta la sala echeggiò un urlo forsennato e agghiacciante. Sulle scale le quattro figure nere si agitarono e si torsero convulsamente, con la bava che usciva dalle bocche livide. Poi, in un folle crescendo di ululati disumani, si irrigidirono e rimasero immobili. E Conan capì che erano morte. Guardò le schegge di cristallo che si erano posate sotto l'altare. Intorno a questo erano rimasti attorti i tronchi dei quattro serpenti decapitati, ma ormai nessuna vita aliena animava il loro cupo metallo scintillante. Kerim Shah si stava rialzando lentamente dalle ginocchia, posizione cui era stato costretto da una forza invisibile. Scosse la testa per far cessare il tintinnio che sentiva nelle orecchie. «Hai sentito che boato quando hai colpito? Era come se centinaia di pannelli di cristallo esplodessero nel castello insieme al globo. Erano imprigionati gli spiriti dei maghi in quelle sfere d'oro. Ah!» Conan si girò fulmineamente, vedendo che Kerim Shah sfoderava la spada. C'era un'altra figura in cima alle scale. Anche la sua tunica era nera, ma di un velluto sontuosamente ricamato, e il suo copricapo era della medesima stoffa. Il volto era calmo e non sembrava brutto. «Chi diavolo sei?» domandò Conan, guardandolo con il coltello in mano. «Io sono il maestro dello Imsha!» La sua voce squillava come la campana di un tempio, ma vi vibrava una nota di crudele divertimento. «Dov'è Yasmina?» gli chiese Kerim Shah. «Che importanza può avere per te, visto che sei già morto? Hai dimenticato così in fretta la mia forza che un tempo ti prestai da venire armato contro di me, povero pazzo? Credo proprio che ti strapperò il cuore, Kerim Shah!» Il mago tese la mano come per ricevere qualcosa e il turaniano lanciò un urlo di dolore insopportabile. Vacillò come un ubriaco. Poi, con uno schianto di ossa, un cedimento di tendini e di tessuti, la sua cotta di maglia si ruppe e dal petto esplose una pioggia di sangue. Dalla macabra fessura che si era aperta schizzò in aria qualcosa di rosso e di gocciolante, che finì nella mano distesa del maestro, come la lamina di ferro si attacca alla calamita. Il turaniano cadde sul pavimento e giacque immobile, e il maestro rise e scagliò l'oggetto ai piedi di Conan. Un cuore umano che ancora batteva. Con un ruggito e un'imprecazione, Conan caricò le scale. Dalla cintura di Kemsa gli venivano una forza e un odio infiniti che gli consentivano di combattere le terribili emanazioni di potere che volevano ostacolarlo lungo le scale. Nell'aria si condensò una nebbiolina luccicante ed egli vi si immerse come se nuotasse con la testa bassa, il braccio sinistro piegato davanti alla faccia e il coltello ben stretto in basso nella mano destra. Scrutando dal gomito, malgrado la vista annebbiata, riuscì a scorgere davanti a sé l'odiata sagoma del veggente, i cui contorni tremolavano come se le onde disturbassero il suo riflesso nell'acqua. Era investito e subissato da forze che travalicavano la sua comprensione, ma sentiva un potere soverchiante che emanava tutto intorno mentre saliva più in alto, inesorabilmente, malgrado la forza del mago e malgrado il dolore terribile che lo dilaniava. Ormai Conan aveva raggiunto la cima delle scale e la faccia del maestro fluttuava nella nebbia davanti a lui. Una strana paura adombrava quegli occhi imperscrutabili. Conan ondeggiò nella nebbia come se cavalcasse un cavallone e il suo coltello si lanciò verso l'alto come una cosa viva. La punta affilata squarciò la tunica del mago, il quale indietreggiò con un grido soffocato. Poi, sotto gli occhi di Conan, il maestro sparì. Svanì semplicemente come una bolla che scoppia, e qualcosa di lungo e ondulato dardeggiò verso uno degli scalini inferiori che si trovavano alla destra e alla sinistra del pianerottolo. Conan lo inseguì alla carica su per la rampa di sinistra, confuso in merito a quello che aveva visto sfrecciare su quelle scale, ma spinto da una furia cieca che soffocava la nausea e l'orrore che sussurravano ai bordi della sua coscienza. Si lanciò per un largo corridoio di lucida giada, dal pavimento e dalle pareti spogli, e davanti a lui guizzò qualcosa di lungo e di rapido, infilandosi in una porta coperta da una tenda. Dall'interno della camera si udì un urlo di terrore. Il grido mise le ali ai piedi di Conan, che si precipitò strappando la tenda dentro la stanza. E là vide una scena spaventosa. Yasmina, rannicchiata sull'angolo di un divano di velluto, urlava di ripugnanza e di orrore, con un braccio sollevato come per proteggersi, mentre davanti a lei dondolava la testa ributtante di un gigantesco serpente che inarcava il collo luccicante, trascinandosi sulle spire. Con un urlo soffocato, Conan gli lanciò il coltello. Il mostro si girò all'istante e si avventò su di lui come il fruscio del vento tra l'erba alta. Nel collo gli era rimasto conficcato il tulwar. la cui punta usciva da una parte, mentre l'elsa e i quattro pollici di lama uscivano dall'altra. Ma la cosa sembrava soltanto imbestialire il rettile gigantesco. La sua grossa testa dondolò sopra l'uomo, poi si abbassò repentinamente, spalancando le fauci gocciolanti di veleno. Ma Conan aveva estratto un pugnale dal cinturone e con questo colpì verso l'alto non appena la testa si tuffò su di lui. La punta penetrò nella mascella inferiore dell'animale e trafisse quella superiore, infilzandole insieme. Un attimo dopo, il grosso tronco si attorcigliò intorno al corpo del cimero, perché il serpente, non potendo più usare le zanne, ricorreva alla sua ultima possibilità di attacco. Il braccio sinistro di Conan venne imprigionato nelle spire d'acciaio della bestia, ma il destro era libero. Facendo forza sulle gambe per rimanere eretto, il barbaro allungò la mano, afferrò l'elsa del lungo pugnale che spuntava dal collo del serpente e infine lo estrasse con una pioggia di sangue. Come se immaginasse i suoi scopi, con un'intelligenza superiore a quella di un animale, il serpente ritirò le spire e cercò di attorcersi intorno al braccio destro. Ma il grosso coltello, con la velocità della luce, si sollevò e si riabbassò, squarciando a metà il tronco gigantesco del rettile. Prima che Conan riuscisse a colpire ancora, le possenti spire lo lasciarono e il mostro si trascinò sul pavimento, sgorgando sangue dalle sue orrende ferite. Conan gli corse dietro con il coltello sollevato, ma il suo mortale fendente colpì solo l'aria, mentre il serpente si ritraeva da lui e spingeva il muso piatto contro un pannello di sandalo. Una delle ante si aprì verso l'interno e il lungo corpo cilindrico sanguinante del rettile vi si infilò dentro e scomparve. Conan attaccò immediatamente il pannello. Con pochi colpi questo cedette, rivelando al di là una buia alcova. Non c'era traccia di spire lì dentro. C'era sangue sul pavimento e delle impronte insanguinate che conducevano a una misteriosa porta ad arco. E quelle erano impronte di un uomo scalzo. Conan! Conan si voltò fulmineamente quando sentì il suo nome urlato, appena in tempo per ricevere tra le braccia la Devi del Vendia, che attraversava la stanza di corsa e si lanciava verso di lui, avvinghiandoglisi al collo con una frenesia disperata, semi-isterica per il terrore, per la gratitudine e il sollievo. Il sangue selvaggio di lui già ribolliva al massimo per tutto quello che aveva passato. Conan la strinse a sé con una forza che in un altro momento l'avrebbe fatta svenire e le premette impetuosamente le labbra con le proprie. Lei non oppose resistenza. La Devi era vinta dalla donna. Chiudendo gli occhi, bevve avidamente tutti i suoi baci appassionati, ardenti e sfrenati, come se bruciasse di sete. Ansimava con la medesima violenza di lui, e quando Conan si interruppe un attimo per riprendere fiato, la vide languidamente abbandonata tra le sue braccia possenti. «Lo sapevo che saresti venuto per me! Non mi avresti lasciato in questo covo di demoni!» A sentire quelle parole, Conan ricordò improvvisamente dove si trovavano. Alzò la testa e si mise ad ascoltare attentamente. Regnava il silenzio nel castello di Imsha, ma era un silenzio carico di minaccia. Il pericolo si nascondeva in ogni angolo, dietro ogni tenda. «Faremo meglio ad andarcene finché possiamo. Quegli squarci sarebbero bastati ad uccidere qualunque bestia o uomo normale. Ma un mago ha 12 vite. Feriscine uno e quello striscia via come un serpente mutilato a prendere nuovo veleno da qualche magia». Conan prese in braccio la ragazza e, portandola come una bambina, uscì nel corridoio di giada luccicante e discese le scale, con tutti i sensi vigili a ogni suono e rumore. «Ho visto il maestro. Mi ha fatto degli incantesimi per annientare la mia volontà. Il più spaventoso è stato quando un cadavere in decomposizione mi ha stretto tra le braccia. Sono svenuta e sono rimasta immobile, come morta, per non so quanto tempo. Dopo un po' ho ripreso i sensi e ho sentito rumore di lotta e delle grida. E poi quel serpente che è entrato strisciando dalle tende. Ah! Stavolta sapevo che non si trattava di un'illusione, ma di un vero serpente che voleva la mia vita!» «Non era un'ombra, almeno. Sapeva di essere stato battuto e preferiva ucciderti anziché permettere che ti liberassi. Ma a chi ti riferisci? Gli chiese la Devi spaventata, ma poi gli si avvinghiò addosso urlando, dimentica della domanda. Infatti, aveva visto i cadaveri ai piedi delle scale. Quelli dei veggenti non erano un bello spettacolo da guardare. A vederli così accartocciati e contorti, con mani e piedi in piena vista, Yasmina divenne rossa e nascose la faccia contro le spalle possenti di Conan. Dieci. Conan attraversò l'atrio abbastanza in fretta, superò la stanza esterna e si avvicinò alla porta che conduceva alla terrazza. Poi si accorse che il pavimento era cosparso di schegge scintillanti. La lastra di cristallo che impediva l'accesso alla porta si era rotta in mille pezzi, e allora ricordò lo schianto che aveva accompagnato l'esplosione del globo di cristallo. Ipotizzò che ogni pezzo di cristallo presente nel castello si fosse rotto in quello stesso istante, e un oscuro istinto, o forse il vago ricordo di una leggenda, gli suggerì la verità sul mostruoso collegamento tra i signori del Cerchio Nero e le Melagrane d'Oro. Sentendo che i peli gli si drizzavano sulla nuca, si affrettò a dimenticare l'argomento. Tirò un profondo sospiro di sollievo nel mettere piede sulla terrazza di Giada Verde. Restava ancora ad attraversare la voragine, ma se non altro avrebbe avuto la vista dei bianchi picchi scintillanti al sole e degli alti pendii che scomparivano in lontananza nelle nebbie azzurre. L'Irakzai giaceva lì dove era caduto, orrenda macchia sulla lastra liscia della terrazza. Mentre percorreva il sentiero tortuoso, Conan notò con sorpresa la posizione del sole. Non aveva neppure superato lo zenith. Eppure gli sembrava che fossero passate delle ore da quando era entrato nel castello dei veggenti neri. Sentiva la necessità di andarsene al più presto, non per una paura irrazionale, ma perché l'istinto gli diceva che stava aumentando il pericolo alle sue spalle. Non disse nulla a Yasmina, e la ragazza sembrava contenta di posare la testa bruna nell'incavo del suo petto gonfio e di trovare sicurezza nelle strette della sua braccia di ferro. Arrivato sul ciglio dell'abisso, si fermò un attimo, aggrottando la fronte. La nebbia che fluttuava dentro la voragine non era più tinta di rosso e luccicante. Era diventata fumosa, cupa, spettrale, come la marea della vita che scintilla debolmente in un uomo ferito. Gli venne il vago pensiero che gli incantesimi dei maghi fossero intimamente collegati alla loro persona, molto più di quanto non lo fossero le azioni degli uomini normali ai loro promotori. Ma giù in basso il pavimento luccicava come argento lucido e il filo d'oro scintillava come prima. Conan spostò Yasmina di traverso su una spalla, dove lei rimase docilmente, e cominciò la discesa. Scese rapidamente la rampa e attraversò di corsa il pavimento echeggiante. Era convinto che fossero in lotta con il tempo, che la loro possibilità di sopravvivenza dipendesse da riuscire ad attraversare quella voragine di orrori prima che il maestro ferito del castello ritrovasse le forze e riservasse loro una nuova sorte. Quando scalò l'altra rampa e si ritrovò sulla cima, tirò un grosso sospiro di sollievo e fece rimettere in piedi Yasmina. «Da adesso in poi camminerai, è tutta discesa». Yasmina lanciò un'occhiata furtiva alla piramide scintillante dall'altra parte della voragine. Si ergeva sul pendio nevoso come la cittadella del silenzio e del male infinito. «Sei un mago, Conan di Gor, che hai sconfitto i veggenti neri dello Yimsha!» gli chiese mentre scendevano sul sentiero con il possente braccio di lui che le cingeva la vita snella. «È stata una cintura che mi ha dato Kemsa prima di morire. Sì, l'ho trovato lungo la strada. Questa è una strana cintura, te la mostrerò quando avremo il tempo. Contro alcuni incantesimi vale poco, ma contro altri è molto potente. E poi, un buon coltello è sempre un amico che non ti tradisce». «Ma se la cintura ti ha aiutato a sconfiggere il maestro, perché non ha aiutato Kemsa?» Conan scosse la testa. «E chi lo sa? Kemsa però era uno schiavo del maestro. Forse questo fatto indeboliva il suo potere magico. Su di me il mago non aveva la stessa presa che aveva su Kemsa. Eppure non posso dire di averlo sconfitto. Si è ritirato, ma ho la sensazione che sentiremo ancora parlare di lui. Voglio mettere la maggiore distanza possibile tra noi e il suo covo. Conan si sentì ulteriormente sollevato quando trovarono i cavalli ancora legati ai tamarischi. Li sciolse rapidamente e montò sullo stallone nero, issando la ragazza sulla sella davanti a sé. Gli altri lo seguirono rinfrescati dal riposo. E adesso? In Afghulistan? Non subito. Qualcuno, forse il governatore, ha ucciso i miei 7 capi tribù. Quegli idioti dei miei seguaci pensano che io c'entri qualcosa. E se non riuscirò a convincerli del contrario, mi daranno la caccia come uno sciacallo ferito. E che ne sarà di me? Se i capi sono morti, io non ti servo più come ostaggio. Mi ucciderai per vendicarti. Conan la guardò con due occhi scintillanti e rise all'idea. Allora cavalchiamo insieme fino alla frontiera. Lì sarai al sicuro dagli Afghuli. Io sono la regina di Vendia. Tu mi hai salvato la vita. Sarai ricompensato. Gli ricordò lei con un ritorno all'antica imperiosità. Non era questo che intendeva dire, ma Conan mugugnò quasi offeso. Tieniti la tua ricompensa per i tuoi cani di città, principessa. Se tu sei una regina delle pianure, io sono un capo delle montagne e non farò neanche un altro passo insieme a te verso il confine. Ma saresti in salvo? Cominciò a dire lei sbalordita. E tu saresti nuovamente la Devi. No, ragazza, io ti preferisco come sei ora. Una donna fatta di carne e di sangue che cavalca sulla mia sella. Ma non puoi tenermi con te. Non puoi... Guarda e vedrai. L'avvertì lui torvo. Ma io ti pagherò un grosso riscatto. Andata al diavolo, tu e il tuo riscatto. Il regno del Vendia non può darmi nulla che io desideri almeno la metà di quanto desidero te. Ti prendo con me a rischio del collo. Se i tuoi cortigiani ti rivogliono, che vengano a combattere su allo Zaibar per riaverti. Ma adesso non hai più seguaci. Ti danno la caccia. Come potrai difendere la tua vita, a parte la mia? Ho ancora degli amici sulle montagne. C'è un capo dei Kurakzai che ti terrà al sicuro mentre io me la vedrò con gli Afghuli. E se non mi vorranno, per Krom cavalcherò a nord con te fino alle steppe dei Kozaki. Ero uno Hetman tra i liberi compagni prima di spostarmi a sud. Farò di te una regina sul fiume Zaporoska. Ma io non posso. Tu non puoi tenermi con te. Se l'idea ti ripugna tanto, perché le tue labbra mi hanno ceduto così arrendevolmente? Anche una regina è umana. Ma proprio perché sono una regina, devo pensare al mio regno. Non portarmi in qualche paese straniero. Torniamo insieme nel Vendia. Vorresti fare di me il tuo re? Beh, esistono delle usanze... balbettò lei, e Conan la interruppe con una risata cinica. Sì, usanze civili che non ti permetteranno di fare come vorresti. Sposerai qualche vecchio monarca raggrinzito delle pianure, e io potrò andarmene per la mia strada con il solo ricordo di qualche bacio rubato alle tue labbra. Ha! Ma io devo tornare nel mio regno. Perché? Per mettere le tue natiche su un trono d'oro e ascoltare le blandizie di sciocchi untuosi vestiti di velluto? E che guadagno ne avresti? Ascolta, io sono nato sulle montagne della Cimmeria, dove sono tutti barbari. Ho fatto il mercenario, il corsaro, il cozzaco e un centinaio di altri mestieri. Quale re ha girato in tanti paesi combattendo tante battaglie, amato tante donne e accumulato tanto bottino come me? Sono venuto nel Gulistan per sollevare un'orda e saccheggiare i regni meridionali, anche il tuo. Essere il capo degli Afghuli è stato solo l'inizio. Se riuscirò a fare la pace con loro, entro un anno avrò una dozzina di tribù al mio seguito. Se invece non ci riuscirò, tornerò nelle steppie e razzierò le frontiere del Turan con i Kozaki. E tu verrai con me. Al diavolo il tuo regno. Lo proteggevano da soli prima che tu nascessi. Yasmina si abbandonò nelle sue braccia e sollevò la testa verso di lui. E in quel momento avvertì un fremito interiore, un bisogno sfrenato e incontrollabile che era pari a quello di lui e da lui suscitato. Ma i 1000 imperatori dai quali ella discendeva ebbero la meglio su di lei. Non posso, non posso. Non hai scelta. Tu... Ma che diavolo! avevano percorso alcune miglia da Imsha e stavano cavalcando su un'alta cresta che separava due valli profonde. Avevano appena raggiunto una sommità dalla quale potevano scorgere la valle alla loro destra quando videro uno stuolo di uomini a cavallo. Soffiava un forte vento contrario che allontanava i suoni dalle loro orecchie, ma anche così giungeva dal basso lo strepito dell'acciaio e lo scalpitio degli zoccoli. Videro il riflesso del sole sulla punta delle lance e degli elmi. 3.000 cavalieri con la cotta di maglia stavano inseguendo una banda lacera di uomini a cavallo col turbante che fuggivano ringhiando e battendosi come lupi in fuga. «I Turaniani! Squadroni di Secunderam! Che diavolo fanno qua giù?» «Chi sono gli uomini che inseguono? E perché si ostinano a girarsi? Non possono resistere a un numero simile!» 500 dei miei folli afghuli! Sono in trappola e lo sanno!» La valle finiva veramente in un vicolo cieco, perché si restringeva sotto un'alta gola e poi si riallargava in una conca completamente circondata da pareti altissime impossibili da scalare. I cavalieri col turbante venivano sospinti a forza verso la gola, poiché non c'era altra direzione in cui potessero andare. E così vi si stavano avvicinando con riluttanza, sotto una pioggia di frecce e un turbinio di spade. I cavalieri con l'elmo li premevano alle calcagna, ma non troppo in fretta. Sapevano infatti quanto fosse disperata la furia delle tribù montanare e sapevano anche che la loro preda non poteva sfuggire alla trappola che l'attendeva. Avendo riconosciuto che erano afghuli, desideravano accerchiarli e costringerli alla resa per avere degli ostaggi utili ai loro scopi. Il loro emiro era un uomo deciso e dotato di iniziativa. Quando aveva raggiunto la valle di Gurasha, senza trovare né guide né emissari ad attenderlo, aveva continuato ad andare avanti, confidando nella propria conoscenza del territorio. Per tutta la strada da Secunderam c'era stata battaglia e gli uomini delle tribù si stavano leccando le ferite in qualche villaggio arroccato sulle montagne. Sapeva che molto probabilmente né lui né i suoi uomini avrebbero varcato nuovamente le porte di Secunderam, perché ormai tutte le tribù si erano messe al loro inseguimento. Ciò nonostante, era deciso ad adempiere i propri ordini. Valeva dire strappare a tutti i costi la Devi Yasmina dalle mani degli afghuli e portarla come prigioniera a Secunderam, oppure, se questo non fosse stato possibile, tagliarle la testa prima di morire. Di questi piani, ovviamente, i due che guardavano la battaglia dall'alto non erano al corrente. Conan, però, era molto nervoso. «Perché diavolo si sono fatti intrappolare? Lo so che cosa facevano da queste parti, cercavano me i bastardi! Hanno guardato in tutte le valli e poi si sono ritrovati accerchiati senza accorgersene. Che stupidi! Si sono fermati dentro la gola, ma non possono resistere a lungo. Quando i Turaniani li avranno spinti dentro la conca, li massacreranno a loro piacimento!» Il fracasso che veniva da sotto crebbe di volume ed intensità. Bloccati nella gola, gli afghuli, lottando disperamente, per il momento resistevano ai cavalieri in armatura, i quali non potevano esercitare la massima pressione. Conan borbottò, andò avanti e indietro irrequieto, toccando l'elsa del coltello, e alla fine disse seccamente: «Devi, sono costretto a scendere giù da loro. Ti troverò un posto dove nasconderti finché non ritorno. Tu parlavi del tuo regno. Beh, non voglio dire che considero quei diavolacci pelosi come figli miei, ma in fin dei conti sono miei seguaci. Un capo non dovrebbe mai abbandonare i suoi uomini, anche se sono stati loro i primi ad abbandonarlo. Credevano di essere nel giusto quando mi hanno scacciato. All'inferno! Io non mi farò scacciare! Sono ancora il capo degli afghuli e lo proverò! Posso scendere a piedi giù nella gola!» «E che ne sarà di me? Mi hai portata via dal mio popolo con la forza e adesso mi lasci morire qui da sola tra le montagne mentre tu vai a sacrificarti inutilmente!» Le vene di Conan si gonfiarono per il conflitto di emozioni. «Giusto! Sa soltanto Crom che cosa posso fare!» Yasmina girò leggermente la testa e sul suo bel viso apparve una strana espressione. Poi... «Ascolta! Ascolta!» Aveva udito una lontana fanfara di trombe. Guardarono entrambi giù nella valle verso sinistra e videro un luccichio metallico. Lungo la valle avanzava una lunga fila di lance e di elmi lucidi che brillavano al sole. «I soldati di Vendiglia!» esclamò esultando. «Sono a migliaia! Era da tempo che un esercito di Xatria non si spingeva fin quassù tra le montagne!» «Cercano me! Dammi il tuo cavallo! cavalcherò dei miei guerrieri. La discesa non è così impervia sulla sinistra e posso raggiungere la valle. Tu vai dai tuoi uomini e cerca di farli resistere ancora un po'. Io guiderò i miei cavalli nella valle e attaccheremo alle spalle i turaniani. Li stringeremo in una morsa. Svelto Conan, vuoi sacrificare i tuoi uomini per un capriccio? Nei suoi occhi fiammeggiò la fame bruciante delle steppe e delle foreste invernali, ma alla fine scosse la testa e le affidò le redini dello stallone. Hai vinto! Ora corri come il diavolo! Yasmina scese giù dal monte dalla parte sinistra, mentre Conan correva velocemente sulla cresta, finché raggiunse la lunga pendenza della gola in cui infuriava la battaglia. Si arrampicò sulla parete come una scimmia, aggrappandosi alle insenature e alle sporgenze, per cadere alla fine nella mischia che infuriava l'imboccatura della gola. Intorno a lui fischiavano le spade, i cavalli nitrivano e battevano le zampe, le piume degli elmi si abbassavano in mezzo ai turbanti macchiati di rosso. Mentre colpiva, ululando come un lupo, afferrò le redini tra punte d'oro d'un cavallo e, dopo essersi abbassato per schivare una scimitarra, piantò il suo lungo coltello nelle viscere del cavaliere avversario. Un attimo dopo era già in sella, sbraitando ordini agli afghuli. Questi restarono per un attimo sbalorditi, ma poi, quando videro la strage che la sua spada stava compiendo tra i nemici, si rimisero nuovamente a combattere, accettando la sua guida senza commenti. In quell'inferno di lame che si abbattevano e di sangue che schizzava da tutte le parti, non c'era tempo per fare domande o per rispondervi. I cavalieri con gli elmi a punta e le cotte d'oro si ammassarono dentro l'imboccatura della gola e la stretta insenatura rigurgitò di cavalli e di uomini. I guerrieri erano schierati l'uno contro l'altro e infilavano con le lame dei colpi micidiali non appena avevano lo spazio per muovere la spada. Quando un uomo finiva a terra non si rialzava più, perché veniva travolto dagli zoccoli dei cavalli impazziti. La corporatura e la forza bruta contavano in maniera determinante, e in un simile frangente il capo degli afghuli contava per 10. In quei momenti l'abitudine influenza molto gli uomini, e i guerrieri, che erano abituati a vedere Conan al comando, si sentivano caricati, nonostante la sfiducia che nutrivano in lui. Ma anche la superiorità numerica contava. La pressione degli uomini che premevano alle spalle spingeva i cavalieri del Turan sempre più dentro la gola, in bocca ai Tulwar. Gli afghuli arretravano sempre di più, lasciando il terreno tappezzato di morti, i cui cadaveri facevano inciampare i cavalieri. Conan ebbe il tempo di porsi un'inquietante domanda. Yasmina avrebbe mantenuto la sua parola? Non doveva far altro che unirsi ai propri guerrieri, prendere a sud e lasciare lui e i suoi a morire. Ma alla fine, quando sembrò che si combattesse da secoli, nella valle si udì un altro rumore sopra il fragore dell'acciaio e le urla del massacro. E poi, con uno squillo di trombe che scosse le montagne e un boato di zoccoli, i 5.000 cavalieri d'Alvendia travolsero i nemici di Secunderam. Il loro attacco divise in due gli squadroni turaniani, li frammentò, schiacciò e li fece disperdere per tutta la valle. In un attimo la marea rifluì dalla gola, seguì una lotta allora caotica e confusa, con i cavalieri che si giravano e colpivano da soli o in gruppo. Poi l'emiro venne atterrato da una lancia xatria che lo colpì al petto, e i cavalieri con l'elmo a punta voltarono i cavalli e si lanciarono come pazzi per aprirsi un varco con le spade nella calca che era sopraggiunta alle spalle. Quando si dispersero in fuga, i vincitori gli si misero dietro e i fuggitivi si sparpagliarono su per i pendii vicino alla gola e sulle creste delle montagne, con gli inseguitori alle calcagna. Gli afghuli, quelli che erano rimasti a cavallo, si lanciarono fuori dalla gola e si unirono alla caccia dei comuni nemici, accettando quell'alleanza inaspettata senza discutere, così come avevano accettato il ritorno del loro capo ripudiato. Il sole stava tramontando tra le montagne lontane quando Conan, con i vestiti ridotti a brandelli, la maglia sotto la camicia strappata e macchiata di sangue e il coltello incrostato fino all'elsa, si fece strada tra i cadaveri per raggiungere la Devi, la quale sedeva a cavallo tra i suoi nobili sul ciglio di un profondissimo burrone. «Hai mantenuto la parola, Devi! Per Crom, però! Per un po' me la sono vista brutta dentro a quella gola! Attenta!» Dal cielo piombò un avvoltoio gigantesco, con una tale apertura d'ali da atterrare gli uomini sui cavalli. Il suo becco a scimitarra stava per colpire il morbido collo della Devi, ma Conan fu più rapido. Una breve corsa, un balzo da leone, un affondo selvaggio col coltello, e l'avvoltoio emise un urlo umano, perse l'equilibrio e precipitò verso le rocce e verso il fiume che si trovavano centinaia di piedi più in basso. Mentre cadeva, trascinando le sue ali nere, assunse le sembianze di un corpo umano, avvolto in una tunica nera dalle maniche larghe e con le braccia spalancate. Conan si rivolse a Yasmina, con il coltello rosso di sangue ancora in pugno, le braccia e le gambe muscolose, grondanti per le ferite, e gli occhi azzurri ardenti. «Ah, sei di nuovo la Devi!» disse, guardando con una smorfia il velo ricamato d'oro che si era messa sul vestito da Montanara senza farsi minimamente intimidire dallo sfarzo che la circondava. «Devo ringraziarti per la vita delle mie 350 canaglie, che finalmente si sono convinte che non le ho tradite. Mi hai messo nuovamente nelle mani le redini della conquista.» «Ti devo ancora il mio riscatto», disse lei con gli occhi neri che le luccicavano mentre indugiavano sul suo corpo. «Ti pagherò 10.000 pezzi d'oro!» Conan fece un gesto burbero e spazientito, pulì il coltello sporco di sangue e lo ripose nel fodero, asciugandosi poi le mani sulla cotta. «Esigerò il tuo riscatto a modo mio, e quando deciderò io! Lo verrò a prendere al tuo palazzo di Aiodia, e verrò con 50.000 uomini per vedere che le bilance siano giuste!» Yasmina rise e raccolse le redini. «E io ti verrò incontro sulle spiagge dello Yunda, con 100.000 armati!» Gli occhi di Conan si colmarono di ammirazione e autentica stima. Poi, facendo un passo indietro, il cimmero sollevò la mano in un gesto di regale arroganza e le fece capire che davanti a lei la strada era libera. Fine. La Locanda della Tormenta è stata lieta di presentare Conan, gli accoliti del Cerchio Nero. Grazie per l'ascolto.